La zanzara con Alessio Maurizi. :18:32, buonasera gentili ascoltatori in diretta con Radio 24, La Zanzara come tutte le sere a quest'ora, 824 0024, il numero verde per intervenire in diretta. Questa sera al microfono Alessio Maurizi, una buona serata da tutta la redazione. 349 238 6666 per i vostri SMS, potete anche scriverci come sempre la zanzara at radio24.it. Cominciamo con i nostri spunti per questa serata, titoli TG2. L'Aquila ricorda il terremoto di un anno fa, stanotte saranno letti i nomi delle 308 vittime. Bertolaso, lo Stato c'è e ci sarà sempre. Letta, è il giorno del dolore, ritrovare lo spirito unitario. Pasquetta tragica in montagna, un morto per una slavina in Val d'Aosta. Altri due sci alpinisti si salvano. In Friuli, Venezia Giulia perdono la vita due deltaplanisti. Un altro cadavere ripescato nel lago di Como. Intanto confessa il marito della donna svizzera. L'avrebbe uccisa in casa, poi gettata in acqua. A tradirlo alcuni SMS, movente forse la gelosia. Processione sospesa a Sant'Onofrio in Calabria. Spari contro la chiesa del priore minacciato dalle cosche del paese, dopo che aveva deciso niente mafiosi alla rappresentazione religiosa. Così dunque il TG2, in attesa di sentire anche altri titoli di altri TG di questa sera, cominciamo con i nostri spunti. È stata questa la settimana che si è chiusa, una settimana post-elettorale, allora noi vogliamo individuare un leitmotiv. Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere. Soprattutto all'interno del Partito Democratico si è aperto una specie di dibattito, interventi, interviste da parte di esponenti del Partito Democratico, soprattutto amministratori locali, i Cacciari, Chiamparino, i Variati, l'Eppuppato di Montebelluno, la sentiremo, i Renzi di Firenze che dicono no Bersani, non ci stiamo alla tua lettura del voto, bisogna saper perdere, cioè bisogna prima di tutto dire che le elezioni il Partito Democratico le ha perse, perdendo 4 regioni, solo da qua possiamo ripartire con un progetto politico da offrire ai cittadini. Perché sapete che Bersani nella sua analisi del voto invece aveva fatto un raffronto con i risultati delle europee dell'anno scorso, dicendo in sostanza il Partito Democratico ha tenuto. Prendete uno come Penati, Filippo Penati, candidato in Lombardia, uomo di Bersani, responsabile della segreteria sostanzialmente di Bersani nel Partito Democratico, che il 1 aprile, 2 giorni dopo il voto, manda una lettera agli iscritti e militanti del Partito Democratico in cui sostanzialmente occulta il risultato della sua sconfitta, così dico io. Lui ha preso 33% dei voti, Formigoni il 56%, 33 contro 56, scrive Penati. L'esito delle urne ha preparato il terreno per tornare a vincere a Milano. In Lombardia abbiamo fatto argine al centrodestra e a Milano la battaglia del 2011 per il comune è contendibile. Rispetto alle europee la coalizione è salita del 3%. Il PD, dice Penati, è cresciuto dell'1,6%. Cioè, di fronte a una sconfitta 33 a 56, Penati vede in questo più 1% del Partito Democratico a Milano la cosa su cui puntare. No, non ci stanno decisamente gli amministratori locali del PD che dicono no, bisogna saper perdere. Bisogna saper perdere. Tant'è vero che qualche ora più tardi lo stesso Penati, adesso vi chiediamo quale dei due è quello vero, in un intervento, credo al TG5, a Mattino 5, faceva un'altra analisi del voto, sentiamo. In alcuni momenti abbiamo dato l'impressione... Il mondo lombardo è stato sì... Noi in alcuni momenti abbiamo persino sbagliato il linguaggio, per cui si figuri se uno sbaglia il linguaggio di come entra in relazione con certi ceti produttivi e con certi territori deve cambiare tutto. In alcuni momenti abbiamo dato l'impressione di avere la testa girata dall'altra parte, cioè qui c'erano alcuni problemi e noi gli rispondevamo con altre questioni, cioè quello delle piccole, piccolissime imprese, delle imprese familiari, in cui erano magari elettori di sinistra quando erano lavoratori dipendenti. Nel momento in cui diventavano artigiani oppure piccoli imprenditori, noi non gli abbiamo più parlati, non li abbiamo più riconosciuti. Senta, li abbiamo trattati stato come degli evasori fiscali, come qualcuno che era lontano dal nostro modo di sentire. Io per qua. Bisogna saper perdere. E questo era un altro Penati rispetto a quella della lettera agli iscritti del PD, ve lo ricordo, siamo cresciuti a Milano, è andata abbastanza bene, abbiamo tenuto eccetera eccetera. Il refrain lo aveva per primo, naturalmente essendo il segretario, sostenuto Pierluigi Bersani l'indomani del risultato delle regionali. Allora risentiamo la sua lettura del voto, Bersani. Io non intendo dopo questo appuntamento elettorale cantare vittoria, ma neanche accettare una descrizione dei fatti che assomiglia a una sconfitta nostra del centro-sinistra. Come vuoi quando vuoi. E il punto è proprio questo, le varie interviste che citavamo, i Matteo Renzi di Firenze, il sindaco di Montebelluna, uno dei pochi in Veneto tenuti dal Partito Democratico, anche se lì non si è votato, però lei ha preso 26.000 preferenze. Parliamo di Laura Puppato, la sentiremo. I Cacciari, Chiamparino di Torino dicono: se non partiamo da meno da questo dato, insomma, non facciamo un passo in avanti. Un altro tema è quello del vittimismo, perché sembra proprio che faccia parte così della scena politica italiana sempre di più. Sicuramente è un campione il politico più noto e di maggior appeal in Italia in questo periodo, Silvio Berlusconi, che è riuscito a trasformare il caos liste in un complotto contro di lui. Ma anche chi, però chi vince le elezioni ha sempre ragione, questo lo sappiamo, anche chi invece le perde, come la Bonino in Lazio, torna oggi, credo, su Radio Radicale all'analisi del voto in Lazio, dove lei è risultata sconfitta anche se di non moltissimi voti, come sapete, a dire: ho perso perché ho giocato contro Berlusconi, in sostanza una partita truccata. Sentiamola. La priorità, secondo me, del problema rimane quello, ed è il metodo, diciamo, Sardegna, quello della calata a fianco del proprio candidato. E penso che sia ripetuta, come peraltro ci aspettavamo, ma ahimè l'abbiamo poi attesa solo con la reazione radicale, con la reazione di nessun altro, e che ovviamente, visto che evidentemente funziona, altrimenti il Presidente non perderebbe tempo, diciamo, a occupare tutti gli spazi di questo mondo, tanto da lasciare il venerdì mattina, ultimo giorno di campagna elettorale, tanto da lasciare il vertice europeo venerdì mattina presto, e quindi lasciando la sedia vuota, come si sa nei vertici il capo del governo non può essere sostituito, e quindi a venirsene via, tanto si discuteva solo di rilancio economico, occupazione e quant'altro, per poter occupare tutto il venerdì pomeriggio a fare interviste in diretta e registrata, e a occupare tutto il sabato con il viaggio in Libia, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna saper perdere. Insomma, il bisogna saper perdere, il vittimismo è già stato detto, ma credo che questa sia una, mi aggiungo, insomma, delle ragioni per cui Emma Bonino ha perso le elezioni in Lazio, oltre perché è stata più votata da Polverini, ma senz'altro perché più pronta a lamentarsi del trattamento delle sue liste a livello nazionale, dell'aver fatto campagna contro Berlusconi, che non pronta invece a offrire qualcosa ai cittadini che avrebbero dovuto votarla. Titoli di Studio Aperto. Giallo di Como, uccisa in casa e poi gettata nel lago. Beatrice è morta così. La polizia ha arrestato il marito. A tradirlo gli sms mandati col cellulare della donna. Aveva scritto: non cercatemi più. Ho la coscienza a posto. Alberto Stasi si confessa in esclusiva a Matrix. Chiara era semplice e solare, dice. È stata la mia vita per 4 anni. L'intervista, la prima in TV, domani sera. Ecco un'anticipazione. Pasquetta, addio vacanze, boom di presenze in montagna per l'ultima sciata. Gite e picnic fuori porta come da tradizione. Traffico in aumento per il controesodo, la situazione in diretta. Alla periferia di Roma c'è un locale dove i clienti scelgono le ragazze in vetrina. Così un quartiere della capitale diventa un supermarket del sesso. Ci siamo andati con una telecamera nascosta, vi mostriamo il documento. Tiger Woods torna sul green dopo lo scandalo, ma la vera sfida sarà affrontare i giornalisti che lo aspettano tra poche ore per una conferenza stampa. A proteggerlo ci saranno 15 guardie del corpo. Decollo in rosa, da oggi 4 donne in missione nello spazio, un record. Non era mai successo prima, le astronaute a bordo dello shuttle resteranno in orbita per 13 giorni. La nuova bunza di Tinto Brass, Belen Rodriguez, il maestro italiano dell'Eros, punta a girare un film con l'Argentina e starebbe già scrivendo un copione ispirato a lei. Riuscirà a convincerla ad interpretare la sua prossima Monella? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La settimana elettorale, come dicevamo, si è chiusa in Rai anche con una polemica a distanza, due casi a distanza, Minzolini e Santoro. Perché? Perché per il centrodestra sicuramente resta un caso aperto, quello di Michele Santoro, dopo l'esperimento di Rai per una notte e il ritorno con Anno Zero, le ricostruzioni delle intercettazioni, cioè le ricostruzioni, scusate, hanno fatto sentire di nuovo le intercettazioni, processi in piazza, il centrodestra è critico su questo, lo sappiamo. Per il centro-sinistra invece il caso che si apre sempre più è quello di Augusto Minzolini, direttore del TG1, che ha sostituito i conduttori, dicono a lui scomodi, lui dice solo per un rinnovo generazionale, se l'è preso soprattutto con la Maria Luisa Busi, che ha parlato male del suo TG a Repubblica, però lei fa parte del sindacato, quindi ha tutto il diritto insomma di dire quello che vuole. A questo punto la domanda è: può il centrodestra, la domanda che io vi faccio, il centrodestra accusare ancora di faziosità Santoro difendendo allo stesso tempo Minzolini, uno che nei suoi editoriali del TG1, che è di centrodestra, l'ha fatto abbastanza, insomma, voglio dire, capire. Allora sentiamo qualche, così per rinfrescarci la memoria, Santoro Minzolini. Qualche giorno fa il procuratore di Palermo Ingroia ha giudicato pericolosa la politica del governo sulla giustizia. Un'analisi sorprendente per un magistrato che si è dato un obiettivo ancora più improprio, quello, sono parole sue, di ribaltare il corso degli eventi. Un programma politico che Ingroia ha giustificato con la difesa della Costituzione. Solo che la Costituzione che vuole salvaguardare Ingroia, almeno su un punto sostanziale, non è quella originale. Nella Carta, infatti, insieme all'autonomia della magistratura, i padri costituenti, cioè i vari De Gasperi e Togliatti, inserirono l'istituto dell'immunità parlamentare. Non lo fecero perché erano dei malandrini, ma perché consideravano quella norma necessaria per evitare che il potere giudiziario arrivasse a condizionare il potere politico. Non è dato in natura che un Presidente del Consiglio possa dire: io intervengo a destra e a manca per far chiudere un programma televisivo. Negli altri paesi civili una cosa del genere non si tollera. Se noi commettiamo dei reati, ci sono i magistrati per giudicarli. Se noi commettiamo delle violazioni, ci dovrebbe essere un arbitro indipendente che le giudica. Ma se l'azione viene immessa in circuito per impulso del potere politico, questo non è controllo legittimo, questo è, si chiama in un unico modo, censura. E quello che noi abbiamo vissuto è censura. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ad urne chiuse voglio spiegare a voi telespettatori perché il TG1, malgrado le polemiche, ha assunto una posizione prudente sull'ultimo gossip, sull'ultimo pettegolezzo del momento. Le famose cene, feste, chiamatele come vi pare, nelle dimore private di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli o Villa Certosa. Il motivo è semplice. Dentro questa storia piena di allusioni, testimoni più o meno attendibili e rancori personali, non c'è ancora una notizia certa, né tantomeno un'ipotesi di reato che coinvolga il Premier e i suoi collaboratori. Anche il Papa ultimamente un po' a sinistra. Ripeto la domanda che vi faccio, gentili ascoltatori, 824 0024. Può il centrodestra, che attualmente è al governo e che quindi tiene le fila anche della RAI attraverso la commissione parlamentare, di cui c'è la maggioranza, eccetera, eccetera, prendersela, il direttore generale, insomma, Masi, espressione del governo sicuramente, ma questa non è una novità, prendersela con la faziosità di Santoro, difendendo però allo stesso tempo Minzolini. Bisogna saper vedere, bisogna saper vedere. È questo il grido che viene dagli amministratori locali del Partito Democratico. Bisogna partire da qui, ammettere la sconfitta, caro Bersani. Nessuno apertamente se la prende con la sua leadership, ma i vari Chiamparino, i vari Renzi, i vari Cacciari e anche altri. È stato particolarmente duro anche Enrico Rossi, presidente rieletto. Conferma per il Partito Democratico della Regione Toscana, che dice: beh, insomma, smettiamola di fare i fighetti a Roma, col Partito Democratico, veniteci a cercare noi che le elezioni a volte le sappiamo anche vincere. Partiamo da questo dato, che le elezioni le abbiamo perse. E noi da qua siamo partiti stasera, 824 0024, a commentare un po' questa settimana post-elettorale che si chiude e si apre oggi Pasquetta. Cominciamo a sentire qualche ascoltatore? Allora, andiamo a Genova, ci chiama Corrado, buonasera, benvenuto. Buonasera Alessio, buonasera. Che dire, io sono aderente al Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Diciamo che il mio motto è, sono iperdeluso della destra, la sinistra non mi ha mai convinto, e sono dell'idea che tutta la piattaforma politica abbia perso. La piattaforma politica di chi? In generale, tutti i partiti? In generale, insomma, signori. Qua siamo di fronte a un centrodestra che, a fronte di molte aspettative che avevano gli elettori, me compreso, ha poi... Lei però ha votato per il centrodestra in passato, mi sembra di capire, e ora invece per Grillo. Io ho votato per l'Alleanza Nazionale, sicuramente. Quindi lei ci conferma che, perché normalmente si ritiene che Grillo prenda voti soprattutto a sinistra, e invece no. No, assolutamente, è proprio un discorso trasversale. C'è un sacco di... le persone, al di là della destra, della sinistra, delle ideologie, vorrebbero qualcheduno che si occupasse veramente del bene comune, della cosa pubblica, del bene dei cittadini, che è fatto sia di incentivi alle imprese, piuttosto che rottamazioni di lavatrici e di automobili, ma anche di mobilità sostenibile, tappezziamo i tetti di fotovoltaico, non parliamo di centrali nucleari che creano problemi, scorie, è elementare la cosa, però al centrodestra interessa il business, e quindi bisogna andare dietro quella corrente. Il Partito Democratico del resto non ha, bisogna essere realisti, un'alternativa, e di conseguenza le persone poi sono spiazzate. Che dire, insomma. Va bene, grazie al primo intervento di questa sera, c'era un fruscio. Andiamo a Bari, Antonello, buonasera. Buonasera, io non sono molto d'accordo con l'ascoltatore di prima. Perché? In quanto ritengo personalmente una cosa importante da sottolineare, cioè il fatto che la sinistra non abbia un vero e proprio programma e non abbia mai avuto in questi anni, in quanto l'unica attenzione, l'unico punto sul quale si è sempre concentrata è la demonizzazione nei confronti di Berlusconi, e secondo me non si va avanti in questo senso, ed è per questo che secondo me io, che lo dico personalmente, voto PDL, quindi sono in linea con i principi del centrodestra. Lo dico quasi come consiglio, perché come... Però mi scusi, da parte di un elettore del centrodestra dire che il PD non deve prendersela col suo leader è un po' troppo facile, non trova? Guardi, Come consiglio, insomma, sì. Beh sì, è normale che dal mio punto di vista si cerca sempre di colpire il più forte, questa è una legge purtroppo che il mondo ha visto sempre protagonista, però io penso anche che bisognerebbe, la sinistra debba trovare altri spunti per proporre politica, per proporre nuove idee, cioè anche in queste ultime elezioni. Ma sì, per esempio le idee che propone Beppe Grillo, che secondo alcuni sono assimilabili, in parte toglie voti forse al centro-sinistra, alla sinistra, sono idee da tenere in considerazione o no? Al di là dei modi. Guardi, secondo me non si è ancora capito dove incomincia la politica e dove finisce la satira con Beppe Grillo, perché Beppe Grillo è un personaggio ambiguo della politica. Beh, però ci sono regioni come l'Emilia Romagna dove ha preso un sacco di voti, ecco, hai visto? Questo è un problema chiaro, cioè secondo me lui ha tolto voti alla sinistra, cioè prendiamo il caso del Piemonte, l'Abresso, dal mio punto di vista, io che sono appunto pugliese e quindi non vivo la realtà del Piemonte, ho visto come il Piemonte abbia perso voti, la sinistra in Piemonte abbia perso voti per Grillo, cioè quindi quegli elettori che hanno votato Grillo, scontenti della politica proposta dalla sinistra, o alcuni hanno votato addirittura la Lega e quindi Cota, gli altri hanno votato addirittura Beppe Grillo, che per quanto mi riguarda, quello che penso io di Grillo è che non si è ancora capito dove finisca inizi la politica e dove finisca invece la satira. Va bene, grazie, questo l'ha già detto. Grazie. Marco da Vicenza, buonasera. Sì, pronto? Buonasera. È in diretta, prego. Sì, niente, praticamente volevo parlare un po' dei voti presi da Grillo, che a prescindere dal fatto che abbiano tolto voti alla sinistra, cioè questi sono giochi politici che non mi interessano sinceramente, però il fatto che comunque abbia presentato una propria identità, differenza magari delle altre due correnti. È sicuramente un'identità più pulita, questo senz'altro. Però ora non capisco che taglio voglia dare ora al suo movimento, nel senso se diventare un politico a tutti gli effetti o mantenersi, diciamo, in questo suo mondo. Guardi, non so lei che suggerimento gli dà, visto che è un elettore e quindi il suo parere conta, però credo che Grillo non abbia alcuna intenzione lui stesso di mettersi in mezzo. Ha più volte detto che vuole promuovere, insomma, con i suoi metodi, ma insomma, una rete di cittadini alla prima esperienza con la politica. Questo credo che sia un elemento di una qualche rilevanza. Se si vuole veramente incorrere un qualcosa, cioè, quindi bisogna anche cambiare, diciamo, in determinati modi di fare. Questo è fuori di dubbio. Cioè, ma di chi sta parlando? Di Grillo ancora? Sì, ancora di Grillo. Cioè, lui ha cominciato, diciamo, quasi per sollevare un po' il popolo italiano, ora quasi ci si trova dentro, diciamo, se vuole continuare per questa strada. Quindi, va bene. Va bene, grazie anche a Marco da Vicenza. Andiamo a Foggia, ci chiama Francesco, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io vorrei tornare invece su quella che è stata la sua domanda iniziale sull'informazione. Diciamo una riflessione come cittadino, perché sarà una cosa un po' detta e ridetta, ma pagando il canone e ascoltando un'informazione, un TG1, dove metà del telegiornale sono informazioni molto molto banali, cioè si parla dal tempo, dal cioccolato, all'anziano, al cane, e dal punto di vista poi ci sono degli editoriali molto molto schierati, non credo che questo poi sia quello che poi il cittadino si aspetti dal principale telegiornale nazionale, dove l'informazione debba essere equilibrata. A lei non piace più il TG1, ma da quando c'è Minzolini o da prima? Guardi, io a me non piace l'informazione schierata. Credo che l'informazione debba essere... Però lei dice che Minzolini fa un TG con notizie un po' banali, ma non schierate. Gli ultimi telegiornali che mi capita di vedere la sera li trovo veramente, non so, indefinibili. Non so, un telegiornale alle ore 20, che più della metà passa su informazioni leggere, probabilmente è quello che interessa i cittadini. Non, io me lo chiedo, insomma, io me lo ascolto, lo guardo e rifletto così ad alta voce, ma ci sono molte cose che cominciano, non credo che sia l'informazione che si aspetta. Non so se anche lei dà lo stesso avviso, non so se lei lo guarda. No, ma le chiedevo io invece l'opinione su Santoro, visto che abbiamo paragonato in qualche modo i due. Guardi, casi. Io sono un cittadino, vedo un giornalista, anzi diversi giornalisti che raccontano dei fatti e faccio una riflessione, cioè se quei fatti non fossero veri, comunque quelli sarebbero dei, quantomeno per le querele, oggi sarebbero sull'astrico. Vabbè, un attimo, facciamo una pausa perché abbiamo il giornale radio, siamo già un po' in ritardo. E 15 minuti, ben ritrovati gentili ascoltatori, 800 24 00 24, questa sera per intervenire in diretta come ogni sera la Zanzara. Questa sera sono io, Alessio Maurizi, al microfono. Una buona serata anche da tutta la redazione innanzitutto. Seconda parte del programma, 349-238-6666 per i vostri sms. La Zanzara è radio24.it per scriverci. Riprendiamo coi titoli TG3. L'Aquila un anno dopo, fiaccolate, concerti e messe per ricordare le vittime del terremoto in Abruzzo, le voci di quella drammatica notte. Terrore e morte in Pakistan, battaglia attorno al consolato americano a Peshawar e un kamikaze si fa esplodere durante un raduno politico. Mina, marocchina di 43 anni, è entrata in ospedale per una frattura, non è più uscita. Al TG3 il racconto della sorella che cerca un perché. Nel Vibonese la diocesi vieta la processione agli affiliali all'Andrangheta e le cosche si vendicano sparando sulla casa del priore. Da un mese a Cagliari 42 minatori occupano l'assessorato all'industria, è fallita l'azienda, gli operai sono senza cassa integrazione. Trovato in Sudafrica i resti di un ominide che sarebbe l'anello mancante nell'evoluzione tra scimmia e uomo, ancora non ha né un nome né un volto. Così, dunque il TG3, tra poco gli ascoltatori, prima Sky TG24. L'Aquila un anno dopo, due giorni di iniziative, Bertolaso, nessuno lasciato solo. Pasquetta nella zona rossa tra i turisti attoniti e i terremotati addolorati. Alle 3.32 la fiaccolata per le vittime dalle 21, diretta su Sky TG24. Grande paura per il forte terremoto tra la California e il Messico, due le vittime. Voleva lasciarlo, l'ha uccisa, arrestato il marito della donna gettata nel lago di Como. Vacanze pasquali all'insegna del maltempo, traffico sulle strade del rientro. Nuovo appello del Papa ai sacerdoti, siano angeli e messaggeri di Cristo. Duplice attacco talebano in Pakistan, quasi 50 morti nel nord-ovest del paese. Champions, l'Inter domani a Mosca contro il CSKA, in palio le semifinali. Basta chiacchiere, si torna a giocare, Tiger Woods riparte dal Master di Augusta. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ci sono due casi in Rai nella settimana post-elettorale con i talk show che tornano a dominare l'attenzione. Il centrodestra che tiene nel mirino Michele Santoro, Rai per una notte, tutto il caso che ha creato, e la questione del aver fatto risentire di nuovo le intercettazioni, i processi in piazza, cosa che al governo non piace. Dall'altra parte, al centro-sinistra, non piace come Augusto Minzolini dirige il TG1. Anche questo è un caso che potrebbe approdare in qualche modo nel consiglio di amministrazione della RAI. Non si sa. Minzolini, che ha tolto dal video tre conduttori, lui dice per un ricambio generazionale, ha preso di mira Maria Luisa Busi perché ha parlato male del TG1 su Repubblica. La domanda è questa: si può accusare Santoro di faziosità, cosa senz'altro vera, e allo stesso tempo però difendere Minzolini, che insomma su questo terreno anche lui fa la sua parte? Risentiamole allora per rinfrescarci un po' la memoria, Santoro e Minzolini. Non è dato in natura che un Presidente del Consiglio possa dire io intervengo a destra e a manca per far chiudere un programma televisivo. Negli altri paesi civili una cosa del genere non si tollera. Se noi commettiamo dei reati ci sono i magistrati per giudicarli. Se noi commettiamo delle violazioni ci dovrebbe essere un arbitro indipendente che le giudica. Ma se l'azione viene immessa in circuito per impulso del potere politico, questo non è controllo legittimo. Questo è, si chiama in un unico modo, censura. E quello che noi abbiamo vissuto è censura. Malgrado tutto, credo ancora che ci sia. Della sua figura si discute molto. C'è chi vorrebbe dedicargli una strada e chi si oppone. Chi lo considera un grand'uomo e chi un mezzo delinquente. È arrivato il momento di guardare la sua vicenda con gli occhi della storia. Craxi è stato trasformato nel capo espiatorio di un sistema che era stato l'ultimo residuo della guerra fredda. Il culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ed è tornato in TV anche Gianluigi Paragone sulla RAI con il suo l'ultima parola. E aprendo proprio con una dedica a Santoro, sentiamo. Nel nome della libertà prendo il solenne impegno a realizzare nella mia regione, in sintonia con il governo nazionale, tutti i punti del Patto per l'Italia presentato oggi dal presidente Silvio Berlusconi. Io, Michele Santoro. Io, Vauro Senesi. E Ruotolo. Io, Sandro Ruotolo. Io, Marco Travaglio. La Innocenzi, la redazione, il pubblico. Giuriamo solennemente, giuriamo solennemente, che ora e sempre, che ora e sempre, la faremo fuori dal vaso. Allora, c'è chi giura per guidare bene il paese e ci riesce, infatti prende i voti, e c'è chi giura invece di farla fuori dal vaso e ci riesce, perché infatti fa spettacolo. Ma farla fuori dal vaso tutto sommato è anche facile, come dimostra il maestro Roberto Benigni nel Piccolo Diavolo. Eccolo lì, basta agitarsi un po'. È un po' da esibizionisti, certo, però non è così difficile. È difficile quando poi devi però centrare il buco, prendere la notizia. Sinistra, una bella minestrina. Insomma, è ritornato anche Paragone, senza fare paragoni, anno zero di Santoro ha avuto uno share molto alto, Paragone molto alto, Paragone no, forse la collocazione del venerdì sera non lo premia, forse anche la conduzione un po' troppo frontale, dice Aldo Grasso su Repubblica, rispetto ai temi un po' troppo, non lo so, dire di parte, perché insomma abbiamo appena parlato di Santoro, non ha senso. Non è questo forse il punto è che Paragone, per esempio, adesso lo sentiamo in un collegamento con i suoi giornalisti da Termini Imerese, ha impostato come sempre la sua trasmissione il Nord contro il Sud, però ne è venuto fuori una cosa dal punto di vista comunicativo un po' un pastrocchio. Sentiamo questo primo scontro fra Paragone e i lavoratori di Termini Imerese. Guarda, questa secondo me è una trasmissione faziosa e umiliante per i siciliani, perché non è possibile che venga detto pubblicamente più della mafia è più umiliante della mafia. No, non senta, no. Signore, cos'è? Caro amico mio, scusa, caro amico, è più umiliante della mafia questa trasmissione? E quindi Paragone dice, insomma, la mia trasmissione sarà pure impostata male dal vostro punto di vista, ma non sarà mai peggio della mafia. Una cosa che però fa scatena delle reazioni, ovviamente, perché sembra quasi che lui accusi le persone che sono lì di fronte a lui, che probabilmente non hanno niente a che vedere con la mafia, di essere in qualche modo contigui. Allora apriti cielo, la trasmissione prosegue con toni sempre più esasperati tra il conduttore Paragone e i lavoratori dei Termini Imerese di Fiat, che sono lì davanti solo per difendere il loro posto, anche se sappiamo in un contesto, secondo alcuni, di assistenzialismo che non va promosso. Sentiamo. Io ho fatto vedere una parte sana che ha i problemi e infatti diamo ascolto e visibilità, e ho fatto vedere una parte di Sud che mi dispiace ma esiste in questo paese. Lo vogliamo negare? Una ho capito, sud, voi non lo volete vedere quel Sud, ecco perché state sempre così. Gli evasori fiscali che stamattina hanno... sono stati presi, dai, erano del nord, sono voi non volete vedere quella parte là. Di sud, non volete sono vedere quella parte di sud, i soldi del MAS erano destinati al meridione, siete portati al nord. 824 0024, insomma, il ritorno dei talk show e della politica in TV è un tema di cui vogliamo parlare questa sera. C'è un altro argomento che, di cui si è tornati a parlare, Calciopoli, perché come sapete ci sono delle nuove intercettazioni che Luciano Moggi, nel suo processo penale, per cui la sentenza è attesa tra qualche mese, tra l'altro, ha intenzione di tirare in ballo intercettazioni che fino ad ora non sono state prese in considerazione, che però metterebbero in tutt'altra luce l'Inter e Moratti, in particolare, che da vittime del scandalo sembra quasi, secondo qualcuno, che si trasformino invece in collaterali, collaboratori, non so come dire, vittime, carnefici, insomma un rovesciamento dei ruoli. Una vicenda un po' complicata, ma gli sportivi la conoscono benissimo, così la riassume un bel servizio di Sky TG24. L'intervista all'avvocato di Moggi aveva anticipato lo scenario. Saremmo stati investiti da un nuovo stillicidio di intercettazioni. Da un lato l'ex designatore Bergamo, intercettato 51.000 volte in 7 mesi di indagini. Dall'altra, molti dirigenti del calcio italiano. È la strategia difensiva seguita al controinterrogatorio del tenente colonnello dei Carabinieri, autore delle indagini che portarono al terremoto nel campionato italiano 2005-2006. L'obiettivo, neppure nascosto, sono l'Inter e Moratti, secondo una linea denunciata dallo stesso Moggi. Vogliamo dimostrare che con Bergamo parlavano tutti. O tutti colpevoli o tutti innocenti. Io credo tutti innocenti, ha detto l'ex direttore generale della Juventus. Più o meno la tesi di Bergamo, che si autodefinisce impegnato allora in un processo di umanizzazione della figura del designatore, disposto a parlare con tutti. Ecco il testo dell'ultima intercettazione. Al telefono Bergamo e Massimo Moratti, 10 gennaio 2005. Si parla della designazione dell'arbitro per Bologna-Inter di Coppa Italia, scelta non condizionata dal sorteggio e partita finita con la vittoria dei nerazzurri per 3-1. Il gruppo ha molto apprezzato il lavoro che noi abbiamo fatto nei confronti di Gabriele e Palanca e quindi ho pensato di farli rientrare in Coppa Italia. Uno viene a fare l'Inter e uno fa il Milan. Gabriele è sempre stato un buon arbitro, molto regolare, non ho mai avuto contestazioni. Va bene, mercoledì lo andrò a trovare prima della partita. Fin qui il dialogo diffuso dall'agenzia ANSA, nessuna reazione ufficiale dall'Inter. È arrivata invece, sempre attraverso l'ANSA, la reazione di una fonte anonima della procura napoletana. Non è illecito parlare al telefono, ma concordare accordi illeciti. Questa è disinformazione, non si possono trasformare le vittime in autori del reato. In pratica, una sconfessione del contenuto e la negazione dell'equazione di Moggi. Tutti colpevoli, uguale tutti innocenti. Ed è proprio questo il punto. Naturalmente bisognerà vedere se queste intercettazioni, perché non sono state prese in considerazione fino ad ora nel processo, se quel che chiede la difesa di Moggi, cioè di prenderle in considerazione, se questo fatto avverrà. Ma c'è già chi, come per esempio Battista sul Corriere, dice: io da juventino dico azzeriamo quei due scudetti, e c'è anche una larvata critica alla magistratura. Incomprensibilmente, dice Battista, queste intercettazioni sono state considerate irrilevanti nel corso della prima inchiesta, e invece indicano un sistema di relazioni molto più esteso e ramificato di quelle riconducibili al mostro Moggi. Insomma, Moggi che va verso un salvataggio inatteso, almeno questo è quello che dicono gli juventini, o chi in questa inchiesta vuol vedere una svolta a questo punto. 824 0024, sentiamo qualche ascoltatore prima di andare in pausa, riprendiamo chi abbiamo. Mario da Torino, buonasera. Rispondere alla sua domanda che lei ha posto prima, ma io credo che abbia ragione Santoro rispetto alle questioni. Non parlo di Minzolini perché è un esecutore, quindi c'è poco da parlare di Minzolini. Il fatto è che Berlusconi è convinto. Scusi, è un esecutore di cosa Minzolini? Un esecutore che è un esecutore di cosa? Di alcuni ordini molto precisi. No, io invece volevo parlare del mandante, cioè di Berlusconi, nel senso che lui non ha una concezione democratica del suo ruolo, non fa il Presidente del Consiglio, lui crede alla concezione di essere diventato il padrone di questo paese nel senso proprietario, ma neanche nel senso di imprenditore. Qui a Torino si dice un'espressione padrone della boita, no? Sono quei padroncini un po' che trattano un po' tutti come garzoni, se magari non obbediscono, non fanno bene il loro lavoro, gli danno un po' un calcio nel fondo schiena. Però mi scusi, tornando alla questione, noi abbiamo messo in confronto Minzolini e Santoro, insomma due modi di fare informazione in TV, che c'entra adesso la questione di Berlusconi con la concezione, come dice lei, padronale? Se vuole finisco. Se sì, ne... sì, sì, no, no. No, non la prendiamo troppo larga però, ecco. Ritorno, per quanto non sono ben uscito dall'argomento, ritorno comunque più precisamente all'argomento, ricordo la risposta giusta di Santoro che diede a Berlusconi, disse: io sono un dipendente della RAI, non sono suo dipendente. Mi sembra perfettamente corretto. Forse bisogna ricordare, ma lui lo sa, solo che non lo vuole sapere, che invece di essere il padrone dell'Italia sta svolgendo un ruolo di Presidente del Consiglio, e che un certo Montesquieu, che non è un giocatore del Lione, aveva dipinto la diversità dei poteri, la diversità delle funzioni, e che non devono in qualche modo andare a toccarsi. Questo è il concetto fondamentale di democrazia. Se invece uno pensa di controllare l'informazione, la magistratura, tutti i poteri possibili e immaginabili, penso che appunto questo con la democrazia e la concezione liberale della società abbia poco a che fare, insomma. Questo è il mio concetto. 19:34 minuti, 824 0024, ben ritrovati, gentili ascoltatori. Allora andiamo a Riccardo che chiama da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Salve, no, volevo esprimere un giudizio sul discorso Minzolini-Santoro. La mia idea è che Santoro da un lato ha dato prova di saper creare degli ascolti sulla base di informazioni solitamente documentate, anche perché altrimenti avrebbe avuto varie azioni legali a cui è sopravvissuto egregiamente. E dall'altra che un contenitore e un telegiornale hanno una missione profondamente diversa, per cui dare al TG1 il ruolo di filtro opportuno delle informazioni e forse anche più forte come messaggio alla popolazione italiana. Che lei dice un conto è il talk show e un conto è il TG. Secondo me il TG dovrebbe avere un ruolo molto meno, non dico fazioso, perché sicuramente Santoro è fazioso, nel senso che dà una serie di informazioni, ma le dà per dimostrare certe tesi. Credo che nel caso del TG1 questo sia un po' più grave, e dal punto di vista poi volevo infatti aggiungere... Guardi, siccome sono stato io a fare il paragone, sennò sembra quasi sì. che io abbia voluto dire che diciamo il TG1 di Minzolini è fazioso così come è Santoro nelle sue trasmissioni. Io non lo credo, credo che si sia creata in questo momento una contrapposizione tra due, diciamo, figure del giornalismo in TV che per varie ragioni stanno un po' diventando un simbolo di uno scontro. Naturalmente lo stesso centrodestra pensava di opporre un anti-Santoro, ma giravano i nomi di Belpietro, adesso c'è il programma di Paragone, credo che Minzolini in questo c'entri poco, se non quando fa i suoi editoriali, ed è per questo che io ho detto si può accusare Santoro di faziosità e difendere Minzolini che ha fatto degli editoriali schierati, questo è indubitabile, anche se non tutti i giorni, ma insomma qualche editoriale l'ha fatto, ed era questo, diciamo, la sostanza del paragone, non che si tratti di spazi paragonabili in alcun modo, almeno dal mio punto di vista. Comunque prego. Sì, no, volevo solo aggiungere un'ultima osservazione, che il modello formattato a telegiornali, a contenitori, talk show, eccetera, probabilmente sta per avere un po' il fiato corto nei confronti di modelli un po' più partecipati, come quello che è stato dimostrato recentemente con Rai per una notte, che è stato fatto su internet per lo più. Quindi forse anche questa però, è la scusi, nuova strada. Lei dice un modello più partecipato, ma in che cosa c'era la partecipazione se non nel fatto che si andava a vedere su internet? Però sì, era sempre un programma dove c'era qualcuno che diceva qualcosa. In quel senso lì, cioè c'è la possibilità, diciamo, di dialogare in maniera interattiva. Questo sicuramente, quello che stiamo facendo adesso, è la prova che si può fare anche con la radio. Però probabilmente riuscire a prendere informazioni in tempo reale mentre si riesce a seguire una trasmissione e incrociare le due cose è un modello di televisione, di media forse più democratico e partecipato di quanto la televisione per definizione possa essere. Va bene, grazie. Andiamo a Luciano che chiama da Cremona. Buonasera. Vorrei intervenire su un concetto. A cosa serve tutto questo? Tutto cosa, mi scusi? Cioè, Santoro, eccetera, eccetera. I problemi sono diversi. Sono gravissimi i problemi in Italia di occupazione. Stiamo perdendo ricchezza. Io sono un vecchio democristiano e per di più sono anche iscritto alla Confindustria. Pago regolarmente la mia iscrizione, pago le RAI regolarmente. E i problemi che sento continuamente dibattere sono questi problemi. Santoro, tutte queste scempiaggini qua, Grillo, eccetera, eccetera. Ma i problemi non sono questi, sono problemi che voi dell'informazione create, spettacolo e nient'altro. Noi dell'informazione, insomma, non sono così creativo da questo punto di vista, non me la sento di... imputarmi. Beh, insomma, le critiche a Santoro arrivano tutti i giorni da esponenti politici di livello nazionale, così come la questione di Minzolini è stata posta attenzione non solo della stampa. Ora, forse c'è un aspetto in cui lei non ha ragione, è una questione un po' tra giornalisti, per esempio quella della critiche della Busi, che ha scritto su Repubblica parlando male del TG1, fa parte del sindacato, può parlare, non può parlare, questo sì, però mi pare che insomma, le critiche, per esempio, a Santoro non è che l'abbia inventata la stampa, no? Santoro, che problema è Manzolini? Ma che problemi sono? Il vero problema sono le 150 persone che il 27 non riceveranno lo stipendio. Ha capito qual è il vero problema? Non è lo spettacolo che voi mettete in atto ogni giorno. Va bene, ho capito. Insomma, ma chi sono queste 150 persone che rimangono senza stipendio? Mi scusi? I suoi dipendenti. I miei dipendenti. Per che cui, succede? No, riusciremo a risolvere il problema, non è qua il fatto. Cioè, ma lei che impresa ha? Io ho una grossa impresa farmaceutica, per cui ho dei grossissimi problemi in questo momento con questa politica farmaceutica che sta facendo questo governo. Ma cos'è, il credito? Il problema del credito? Credito, eccetera, ma soprattutto pagamenti, ospedali che non pagano più, eccetera, eccetera. Per cui non è lì. Però il problema è che risolveremo il problema. Però il fatto è che i problemi sono altri, non è Grillo, non è l'imbecille Grillo che dice cose che non sono nemmeno provate. Quando lei parla, ho sentito i suoi ascoltatori, il fotovoltaico, ma se non ci fossero, che il fotovoltaico viene pagato da noi cittadini, nessuno avrebbe il fotovoltaico. Ma che senso ha tutto questo? Perché non lo dite queste cose qua? Perché non parlate di problemi reali? Vabbè, insomma, Luciano, noi parliamo di tante cose, ci sono tanti programmi a Radio 24, qua si confrontano soprattutto opinioni, è inevitabile che si possa scivolare anche su argomenti che possono apparire meno di sostanza, ma non è questo un problema. Pier Giorgio da Bologna, buonasera. Buonasera, grazie dell'opportunità che mi date. Prego. Io volevo portare il mio contributo, nel senso che io queste ultime elezioni ho veramente fatto fatica a votare per l'imbarazzo della scelta, più che per turarsi il naso a questi discorsi. Nel senso ma che l'imbarazzo non io... nel senso che c'era un'ampia scelta, mi pare di capire. No, ecco, l'imbarazzo della non scelta. No, per me l'imbarazzo era nell'ampia scelta, nel senso che... Ah, lei è uno di quelli che aveva più... Perché tutti dicono che, insomma, non sapevano cosa votare, una tristezza. Invece lei no, è andato convinto. Sono sempre in controtendenza. Bene. No, nel senso che mi sono accorto che sul mio voto si giocavano diversi partiti e questa cosa mi ha fatto sentire un po' il peso della responsabilità. Io ho sempre... votato PD pur partendo da posizioni tra virgolette estremistiche, mi sono avvicinato a una posizione moderata proprio perché mi sembrava già una posizione abbastanza, essere moderati oggi mi sembra già un atto di grosso estremismo, nel senso che penso che la posizione di Berlusconi e la posizione della Lega alcune siano illegittime, altre siano legittime, altre siano posizioni addirittura a mio avviso sovversive, e quindi penso che cos'è? La posizione facciamo qualche esempio però, perché sennò stiamo... Ma guardi, secondo me per esempio il discorso che fa sulla magistratura Berlusconi, i termini che usa, il modo di comunicare, la personalizzazione estrema che richiede, annulla alcune posizioni che magari possono essere anche, ripeto, legittime, in una posizione invece estremistica, nel senso che io non capisco come un moderato possa votare Lega o PDL quando mi sembra quasi normale che voti, diciamo così, un partito dell'arco costituzionale. Ma perché, quindi, scusi, la Lega non fa parte dell'arco costituzionale, a parte la questione della secessione, però insomma, che poi è un federalismo, guardi, più che altro. Io sono non ho capito, Bologna, ma sono di origine bresciana, sì. e sento parlare, ho parecchi, oltre che a parenti ho anche molti amici leghisti, li sento parlare e le assicuro che non sono posizioni costituzionali, non sono posizioni... Ma che vuol dire non sono posizioni costituzionali? In che cosa non sono costituzionali? Cosa vuol dire poi una posizione costituzionale? Posizione costituzionale significa che nelle proprie posizioni politiche si integrano anche i principi della Costituzione, ma anche soltanto la divisione dei poteri, piuttosto che i primi 12 articoli sulle leggi fondamentali dello Stato, il modo in cui viene considerata la democrazia. Sono secondo me valori che la Lega e il PDL hanno perso, lasciando sostanzialmente al PD il ruolo, diciamo, di partito istituzionale, il partito in questo che lei dice c'è una parte di verità. È vero che il Partito Democratico spesso resta con la bandiera in mano delle istituzioni, almeno a livello di annunci, perché intendiamoci, stiamo parlando di annunci, e questa è una cosa, cioè l'identificare il Partito Democratico con le istituzioni anche quando le istituzioni non funzionano o sono viste negativamente, come accade sempre più spesso per lo Stato, per la giustizia o per le università, insomma, si è detto, no? La battaglia dei baroni che difendono le università, sembra quasi che in questo il Partito Democratico sì, resti col cerino in mano, però mi sembra che il suo discorso ci porti un po' troppo in alto parlando di questioni costituzionali. Vorrei ritornare invece, grazie comunque, la saluto, vorrei ritornare un po' più in basso, ventre a terra, come ha detto lei, Laura Puppato, buonasera. Buonasera. Sindaco di Montebelluna del Partito Democratico, record woman di preferenze, quante ne ha prese alle recenti elezioni regionali? 26.000? Nella mia provincia 26.230, sì. che sono tantine. Lei fa parte di quella pattuglia. Beh, insomma, lei fa parte di quella pattuglia di amministratori locali del PD che prende un po' le distanze dai vertici. Pattuglia, per la verità, sempre più sparuta. Siete quasi una riserva indiana, siete sempre meno, avete perso 4 regioni. Sì, non è andata bene in queste elezioni, però è anche vero che abbiamo, come dire, come forza di opposizione a noi e quindi come forza in realtà di governo, una forza che sia nel PDL sia nella Lega ha decisamente capacità di comunicazioni molto superiore alle nostre, a cui vengono anche permesse situazioni, a mio avviso. Paolo, mi faccia vicine. Anche lei un po' la questione del abbiamo perso, però coi distinguo, perché noi siamo partiti dicendo. Raccogliendo un po' questo grido che arriva dagli amministratori locali del PD a dire a Bersani: prima di tutto ammettiamo la sconfitta, poi di lì ripartiamo. Lei è una di quelle che dice le elezioni sono perse. Vai a negare i propri errori, perché è sempre dai propri errori sicuramente che nascono le peggiori sconfitte. Decisamente dobbiamo tornare a lavorare di politica, a ragionare di politica, partendo dal presupposto, come le dicevo, che per noi la strada è in salita, anche per la situazione nella quale oggi si vive la politica in questo paese. Perché? Cioè, in salita in che cosa? Nel senso che non abbiamo le stesse opportunità di comunicazione e neanche di informazione. Io ho sempre dichiarato in tempi non sospetti che la nostra campagna elettorale ha commesso due enormi errori. La prima, e questa dipende esclusivamente da noi, non aver saputo valorizzare un principio democratico che oggi secondo me viene vissuto in maniera straordinaria da tutti, anche dai non democratici. Indovino le primarie. Esatto. Però scusi, a parte le primarie, che finisca, poi le faccio la domanda. Prego. Allora faccio io la domanda, perché a parte il discorso delle primarie, che però ci porta su un piano più strettamente politico, lei dice non abbiamo potuto competere in qualche modo perché non avevate, lei dice, accesso forse ai mezzi di informazione, ma non capisco, lei smentisce però un po' se stessa. Lei è stata eletta due volte sindaco a Montebelluna, ha un successo personale notevole, e questo tra l'altro è la cosa interessante della sua situazione politica, perché... E lei evidentemente è una persona credibile, e questo mi sembra un punto, no? No, ma infatti le stavo dicendo, la questione è che più allarghi il campo, più è difficile riuscire a entrare in contatto con le persone. Se entri in contatto con le persone, permetti a loro di farsi una visione dell'attuale politica, della situazione anche economica, della situazione dei servizi, delle infrastrutture, delle reti, della situazione energetica, di come si posiziona la tua regione o il tuo paese nel rispetto appunto dei trattati internazionali, con una chiarezza che altrimenti il povero cittadino onestamente non può avere, per il semplice fatto che non è in grado da solo di mettere insieme tutta una serie di elementi e di dargli coerenza. E per questo dicevo prima che l'altro grande errore che noi abbiamo fatto è stato quello di non partire per tempo. Cioè, noi dovevamo evidentemente supplire una carenza evidente, insomma, di comunicazioni, anche per una forza economica che non abbiamo o che comunque non spendiamo bene in maniera adesso adeguata. Sta parlando del Veneto in particolare, a livello nazionale? Qui abbiamo vissuto una situazione davvero molto particolare tutto il mese di febbraio, per esempio. Sì. Ma sicuramente chi sta al governo, insomma il centrodestra stava al governo, probabilmente ha avuto modo, come è accaduto in Emilia Romagna o in Toscana per il Partito Democratico, di avere qualche carta in più in mano, questo sì. Chiaro. Perché ci sono campagne anche istituzionali sui risultati raggiunti dai governi locali, questo sì, che dire, non lo so, una parola sul candidato Bortolussi. Lei non so poi se faceva parte del processo decisionale che ha deciso di candidare lui, so che parlare bene o male di altre persone, insomma, non è mai carino, ma forse era una persona che è una persona splendida, però forse non lo so, potevano trovare un candidato con un po' più loro... di... Allora, i veneti, come loro mentalità e costituzione, proprio amano di più le persone coraggiose che coloro che riportano, come dire, dei dati piuttosto che ne sanno di statistica, insomma, per così dire. Questo è un uomo, insomma, in qualche modo un uomo dei numeri, la CGA di Mestre, una figura importante, però forse un po' lontana dalla gente, ecco. Percepita come lontana, certamente. Abbiamo avuto più difficoltà a farlo conoscere, soprattutto perché siamo partiti, ripeto, poco più di un mese prima, e la cosa è davvero inaccettabile, perché quando hai a che fare con 5 milioni di persone dislocate su un territorio come il Veneto e devi, come dire, rendere concreta una possibilità che è quella appunto di un'alternanza di governo, perché questo doveva essere... Qualcuno però pensava proprio a lei, no? Sì, io ero in ballottaggio con lui. Purtroppo non ci sono state le primarie, altrimenti forse la questione oggi sarebbe diversa. Lei pensa che alle primarie lei avrebbe preso sicuramente più voti, con tutte queste preferenze che ha avuto, probabilmente sì. Ma insomma, la mia veniva considerata una candidatura identitaria, anche se per la verità in termini identitari, come dire, è difficile collocarmi, nel senso che nella mia città, come lei ben ricordava, che è una delle città, come dire, che ha avuto il reddito più alto sia in Italia che in Europa e che è patria della calzatura sportiva a livello proprio mondiale, sì, è un l'impresa si parla tutti i giorni, certo. E il Partito Democratico è al governo da 8 anni con me e con una giunta in larga prevalenza proprio targata Ulivo, quindi insomma credo che si possa dire anche che c'è una capacità politica che prescinde. Scusi, ma non so se lei dagli stereotipi. Non so se gliel'hanno già chiesto, ma chi è che si è messo di mezzo per non fare le primarie, sostanzialmente per non far sì che fosse lei il candidato alle regionali, che probabilmente non avrebbe vinto perché comunque no, il centrodestra e la Lega hanno esattamente un bacino di voti difficilmente erodibile, però forse un risultato migliore potevate ottenerlo. Chi è che l'ha fermata? Ma insomma, diciamo che dalla nostra, purtroppo nel nostro torto, del nostro DNA c'è anche questa abitudine a volte che diventa dannosa, a volte malsana, insomma, di continuare a parlarsi addosso e ad ascoltare, come dire, tutti coloro che pare abbiano qualcosa da dire e che però non sempre hanno la percezione appunto dell'orecchio a terra, come lo definiva prima. Ma a chi si riferisce in particolare? Ma lasciamo stare, non serve a nulla in questo momento. Certamente c'è stato qualcuno a togliersi qualche sassolino, molto... forse, no? A questo punto, se non è questo il momento, non ci sarà mai un momento. Io direi di guardare qualcuno avanti. Qualcuno a Roma? Tanto anche no, davvero, non credo che sia una questione romana, credo che sia una questione tutta interna al Veneto. No, lei ha detto Bersani non si tocca, cioè, quindi lei parla del Veneto. Però allora questo è un partito che, come anche la vicenda Vendola in Puglia, a cui lei faceva anche riferimento in qualche intervista, come un caso, lei dice, dove col coraggio si può osare vincere, dimostra che questo il Partito Democratico è un partito che non riesce a mettere in collegamento i territori, la Puglia, il Veneto, con la dinamica nazionale, con la leadership di Roma. Bisogna saper ascoltare, cioè la percezione della gente non è qualcosa a cui puoi anche non far riferimento, soprattutto quando fai politica, perché la gente evidentemente ha molto da dirti, insomma, e la loro capacità di sentire, come dire, un traino piuttosto che un altro, una figura piuttosto che un'altra, insomma, è quello che è accaduto anche con le primarie nell'ambito del Partito Democratico, con tutti quei milioni di persone che sono andate a scegliere il segretario nazionale. Beh, insomma, mi pare una grande dimostrazione di come una larghissima maggioranza sapesse bene quale fosse la persona più giusta. Quindi a volte, come dire, affidarsi a una percezione vuol dire anche affidarsi a molto di più di una percezione, cioè a qualcuno che identifica qualcuno come guida, che la percepisce come guida, che lo vuole provare sul campo, che è in grado di affidarsi. E lei questo ha dimostrato di saperlo, insomma, fare, evidentemente. Il novismo in politica non paga quasi mai, nel senso che se tu inserisci una persona ex novo, io la definisco, è come se tu provassi a mettere un extraterrestre a guidare la Terra, no? Cioè, voglio dire, ci deve essere per forza qualcuno che nel frattempo si è fatto conoscere, ha maturato esperienza, si è reso perciò figura. Mi sembra chiaro il suo discorso, mi sembra chiaro puntare sulle persone che sono quelle che poi veicolano le idee. Vorrei fare, a proposito di idee, un piccolo test con lei, se è d'accordo, perché volevo capire se almeno questa pattuglia, diciamo così, di amministratori locali del PD che sta emergendo un po', io ho fatto i nomi di Chiamparino, Renzi, Cacciari, lei, Renzi e forse anche altri, molti anche giovani, insomma, e quindi la nuova generazione del PD, se almeno sono d'accordo su alcune idee. Siccome Chiamparino recentemente che è stato tirato in ballo anche come possibile, diciamo, elemento nel PD a livello nazionale e aveva fatto... caduta la linea con la Puppato? È caduta la linea. Peccato, perché vediamo se la recuperiamo. Volevo fare un test per capire se su 2 o 3 punti elencati recentemente da Chiamparino su temi etici come i matrimoni gay oppure la giustizia oppure le infrastrutture o gli immigrati, tema caldissimo sicuramente in Veneto, se lei era d'accordo, no? con Chiamparino, per vedere se Almeno su questi punti l'abbiamo recuperata. Pronto? Eccoci. Allora, non so se nel frattempo forse non ha sentito, volevo fare un piccolo test con lei. Sì. Ci sono due o tre punti di un ipotetico programma politico, anche se qua abbiamo parlato di persone sino ad ora, che Chiamparino, che è uno dei diciamo dei leader di questa parte, gli amministratori locali del PD. Volevo capire se lei era d'accordo. Per esempio, adozioni, parliamo di gay, sì ai matrimoni, no alle adozioni dei gay da parte di gay di bambini eventualmente. Questo Chiamparino, d'accordo? Assolutamente sì. Questa era abbastanza facile. Sulla giustizia, Chiamparino dice: non sono pregiudizialmente contrario a dividere le carriere tra giudici e pubblici ministeri. Un tema questo caldissimo. Lei invece? Io ho una posizione un po' più conservatrice su questo. Cioè, bisogna che rimangano uniti in qualche modo. Le questioni non sono così banali, no. Io giudico che la cosa sia ancora da valutare opportunamente, piuttosto sarei disponibile a una modifica sostanzialmente dei livelli di giudizio in questo paese, che rendono a volte tortuosa e infinita la possibilità di aggiungere a compimento. E già abbiamo qualche distinguo. Infrastrutture, la TAV in Piemonte non riguarda la sua regione, il Veneto, però insomma come bandiera quasi dell'innovazione da portare avanti a tutti i costi del Partito Democratico, oppure ci vuole qualche cautela in più? Sì, io direi che qualche cautela ci vuole, ma guardi, se posso dirle, tutti e tre i temi sono tre temi importanti. Se poi lei va a chiedere alla gente se questi tre sono i tre temi essenziali, le diranno di no. E allora vediamone uno più, sono, vediamone uno più, no, più centrale forse, immigrati. Questo glielo dico, sì. Ma nel senso che insomma la TAV interessa a molti, mentre il trasporto pubblico locale interessa a tutti, tanto per capirci. Certo. Noi abbiamo un trasporto pubblico locale da terzo mondo, siamo andati indietro persino rispetto al 1930. Beh, quindi mi sta rispondendo chiaramente anche a questa domanda. Certo. Ultimissima cosa, immigrati, i figli degli irregolari iscritti, figli degli immigrati irregolari iscritti nelle scuole torinesi, questo è un provvedimento di Chiamparino, lei è d'accordo? Sì. I figli degli immigrati? Irregolari, iscritti negli asili. Sa che su questa questione ci sono interpretazioni, norme costituzionali. Questa è veramente una questione ignobile, io la definirei. Perché l'accanimento verso l'immigrato irregolare, che peraltro in questo tempo, il tempo che viviamo oggi, in molti casi significa semplicemente un immigrato che è qui da molti anni e ha perso il lavoro, per cui non ha alcuna colpa, ed è bene dirlo. Io lo trovo inaudito che noi possiamo sostenere tesi come quelle che vengono sostenute oggi, soprattutto nel PDL e in Lega particolarmente, in cui si va a discriminare il bimbo, cioè quindi il minore, rispetto alla sua necessità dell'iscrizione nella scuola, rispetto alla necessità della famiglia in generale per la salute. Quindi queste cose non si toccano, non si discutono. Sono proprio altro che in un paese democratico non si può fare. Beh, diamo il risultato del test, 2 su 4 d'accordo con Chiamparino, sugli altri si può discutere, insomma, e la partita è aperta. Io ringrazio Laura Puppato anche per lo spirito in cui è stata con noi, sindaco di Montebelluna, buona serata, grazie. Grazie a voi. 20 in punto, sentiamo i titoli dei telegiornali TG1. L'Aquila, un anno fa il terremoto, 308 vittime, Berlusconi, qualcuno ha infangato il nostro lavoro ma abbiamo agito in tempi da record. Il giallo della donna del lago di Como, arrestato il marito in Svizzera, l'ha uccisa per gelosia, incastrato dagli esseri... Punto, sentiamo i titoli dei telegiornali TG1. L'Aquila, un anno fa il terremoto, 308 vittime, Berlusconi, qualcuno ha infangato il nostro lavoro ma abbiamo agito in tempi da record. Il giallo della donna del lago di Como, arrestato il marito in Svizzera, l'ha uccisa per gelosia, incastrato dagli SMS. Mi chiamavano gay, così si è giustificato il cingalese che ieri ha ucciso in centro a Firenze 2 suoi connazionali. Lunedì dell'angelo, il Papa, la fede guidi la Chiesa in difficoltà e i sacerdoti siano messaggeri dell'amore di Cristo. Santo Onofrio in Calabria, in processione il vescovo non vuole figuranti dell'Andrangheta, spari contro la porta del priore. Donne alla conquista dello spazio, 3 a bordo dello shuttle Discovery, un'altra è già in orbita nella stazione internazionale. Dalle gite fuori porta le ultime sciate, una pasquetta secondo tradizione, bollino rosso per il traffico del rientro a casa. Così il TG1, adesso TG5. L'inviato del TG5 in Inghilterra sulle tracce di Danilo Restivo, indagato per la morte di Elisa Claps e sospettato della polizia inglese di un altro omicidio, parla un amico della vittima. Prima di morire, Heather mi confidò che aveva paura di lui. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi domani a Matrix. Ero sicuro che la verità sarebbe emersa e con emozione ricorda i 4 anni insieme a Chiara Poggi. È stato arrestato il marito della ragazza svizzera trovata morta nel lago di Como. L'avrebbe uccisa per gelosia. A tradirlo gli SMS inviati dal cellulare della vittima. Un anno fa il terribile terremoto dell'Aquila. Stanotte alle 3:32 i rintocchi delle campane ricorderanno i 308 morti del sisma. Bertolaso ha fatto un lavoro importante e positivo. Le asportano il seno sinistro per un tumore inesistente e resta invalida al 50%, vittima una 47enne che ha denunciato 2 ospedali. Uno scienziato sudafricano trova in una cava lo scheletro di un ominide, potrebbe essere la congiunzione tra la scimmia e l'uomo. Rita Dalla Chiesa ricorda il giudice Santi Licheri, garbato e storico giudice di Forum, un grande uomo mancherà a tutti noi. E così, allora riprendiamo con i vostri interventi all'800 24 0024. Andiamo a Giuseppe che ci chiama dalla provincia di Padova. Buonasera, benvenuto. Buonasera, mi scusi. Io ho chiamato per dare un mio parere su quell'argomento delle faziosità fra Santoro e Minzolini e compagni. Nel frattempo però, come ho detto alla segreteria, sono in viaggio, sono partito da Milano. Ci sono 35-40 chilometri di coda. Dove? Non mi sembra. Dal Veneto verso Milano. Non mi sembra un paese tanto in crisi questo come si può far capire, perché in mezzo a questi 40 chilometri di coda ci sono anche qualche operaio, no, che va dal signor Santoro a dire che è senza lavoro. Questo è un argomento. Seconda cosa, io vorrei, come ho detto prima, sapere quale trasmissioni, no? Parlando di par condicio, quali trasmissioni del gruppo Mediaset possono essere paragonate a un anno zero, un che tempo fa, un La Sette, tutte. Ecco, mi indichi lei una trasmissione con quelle caratteristiche. Se vuole un suggerimento, proviamo con TG4. Prego? No, con dico... TG4? Ah sì. Con quei toni, con quelle, cioè, solo perché no, naturalmente con stili diversi, completamente diversi, naturalmente. Ah, sì. Parliamo di faziosità, beh, insomma. Beh, faziosità, io almeno non so cosa è. Faziosità vuol dire di parte, no? Però c'è di parte e di parte. Poi un'altra cosa, cioè io vorrei da parte di questi. No, non ho capito, c'è di parte e di parte. Cioè, secondo lei ci sono faziosità faziose e faziosità invece tollerabili. Cioè, quella di Fede è più tollerabile perché è fatta con modi più garbati. A parte che Fede ogni tanto sa essere velenoso. Sì. Confronto a un travaglio, a un Vauro, cioè sono toni pacati, oppure un Furio Colombo e compagnia bella, sono toni pacati. Vabbè, ma quello è anche il discorso della satira, perché Fede non fa satira, fa un telegiornale. Vauro fa satira ed è velenoso per definizione, poi strappa il sorriso, a volte sì, ma a volte no. Fede riuscirebbe con questo suo modo di fare, no, ad armare la mano di qualcuno contro qualcun altro? Non lo so. Lei pensa che lei riuscirebbe, Fede, con quel suo modo di fare così mieloso, diciamolo pure, leccante nei confronti di Berlusconi, riuscirebbe a armare la mano di un... Leccante mi piace, una definizione... Sì, gliela voglio anche concedere, no? Sì. A parte che sembra anche in chiave satirica questa, ma da quella satira lì a quell'altra mi sembra ce ne sia parecchia, eh? Non sì. È d'accordo con me? No, sono stili completamente diversi, è evidente, perché la satira fa un mestiere diverso, almeno così la vedo io, dall'informazione all'interno di un telegiornale. Lei non vede Vauro, Travaglio e Santoro nei telegiornali della RAI, li vede all'interno di un programma di approfondimento. Che sicuramente è costruito in maniera teorematica, tutto quello che vogliamo, e con una buona dose di faziosità. Non si può negare che il TG4 di Emilio Fede, con modi garbati, però sia da anni, tra l'altro, un modo di passare informazioni che sicuramente, come dice lei, ecco, leccanti, l'ha detto lei. ma io gliela concedo anche, perché guardi, io penso che tutti coloro che hanno votato anche questa volta per l'ennesima volta, no? Ci sono anche, sono parecchie persone che sono convinto che sono stufe di pensare, no? Che cambi qualcosa solo volendo distruggere un uomo, no? Perché non è l'uomo. Gli occhi li abbiamo tutti, no? A lei sembra un paese sotto dittatura, l'Italia? No, ma guardi, se ha sentito per esempio l'intervista che abbiamo fatto poco prima delle 20 a Laura Puppato di Montebelluna, abbiamo parlato di tutto, tranne che di Berlusconi, cioè lei era una candidata in Consiglio regionale Veneto, abbiamo parlato di politica, di come farla basandosi sulle persone, è proprio il senso di quello che volevamo dire. Grazie anche a questo ascoltatore. 800 24 00 24, Pietro ci chiama da Messina, buonasera, benvenuto. Pronto? Sì, la sentiamo in diretta, prego. Allora, vorrei parlare delle intercettazioni che sono emerse adesso su Calciopoli. Sì. Sui fatti di Moro. Ecco, vorrei dire che quando sono state rese pubbliche le intercettazioni su Moggi che parlava con Bergamo, i commenti erano sempre gli stessi, cioè dire sono intercettazioni agghiaccianti, questo basta e avanza per mandare la Juventus in Serie B, basta e avanza per squalificare a vita Moggi. Mi scusi una premessa, ma lei è juventino? Naturalmente sono juventino. Eccolo là, certo. No, eccolo là, non me lo posso dire perché praticamente... Beh no, ma mi scusi, mi permetta, è chiaro che questa è una questione per certi aspetti, ci sono anche dei processi penali, insomma, anche seria, però è evidente che coinvolge anche sì, un aspetto su cui possiamo scherzare, che è quello del tifo, no? Se lei mi può fare parlare un attimo, io certo. Te lo spiego perché sono ridicoli. Prego. Perché non c'è niente delle accuse, praticamente si contraddicono da sole le accuse. Se lei sta seguendo il processo di Napoli, dove il maggiore, adesso non mi ricordo se è colonnello Auricchio, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, sta facendo una figuraccia, mi creda, una figuraccia, si sta contraddicendo da solo, perché c'è l'accusa che dice ad esempio che il sorteggio di Milan-Juventus era truccato, c'è una testimonianza che dice che la storia del colpo di tosse, non so se ne ha sentito parlare lei, e poi lui stesso nel processo dice che invece quel sorteggio è assolutamente regolare perché c'è stato Collina e quindi Collina è al di sopra di ogni sospetto. Praticamente loro si contraddicono da soli, da un lato accusano e da un lato dicono che le accuse sono... Sì, però adesso non entriamo troppo nei meandri, appunto, del processo, perché non ci si capisce più nulla. Se lei invece sì. Mi fa parlare un attimo... Lei sta parlando, guardi, da quasi 2 minuti, prego. Se lei mi fa dire un attimo, praticamente hanno detto che all'epoca bastava parlare di arbitri con il designatore per condannare la Juventus alla Serie B. Questo dicevano. Non so se era proprio questo che era stato detto. Mi faccio dire un attimo. Sì. Moratti ha detto all'epoca che lui con il designatore non parlava mai se non per gli auguri di Natale. Qui non era Natale, in effetti in questa intercettazione non credo che fosse Natale. Ecco appunto, il tema. Siccome Bergamo all'epoca disse che lui in realtà, quelle telefonate con Moggi erano normali, perché lui in realtà parlava con tutti. Io credo che qui, insomma, di persone di moralità specchiata o altissima forse non ce ne sono più tante, però è un problema poi di dove poniamo l'asticella, no? Che cosa è ammissibile e che cosa non è ammissibile. Sul tema sportivo mi permetto una battuta, forse sì, ecco, gli scudetti quelli potrebbero essere non assegnati, forse no, perché questa è poi la richiesta che fa anche il popolo sportivo non interista, no? È così, togliamoli quegli scudetti. Il signor Bergamo è stato gli hanno detto che era un bugiardo quando ha dichiarato che lui in realtà parlava di arbitri con tutti. E il signor Moratti ha detto che lui con Bergamo parlava solo per quanto riguarda gli auguri di Natale. Ora invece vediamo che il signor Bergamo non era un bugiardo, il bugiardo mi pare che è stato il signor Moratti. Va bene, grazie, fermiamoci qua. Sì, su questo punto evidentemente lei ha ragione, però ripeto, non vorrei entrare troppo nei dettagli delle... anche degli aspetti processuali, perché sono poi alla fine non interessano molto, secondo me, anche agli ascoltatori. Salutiamo Giancarlo Mazzucca, buonasera. Buonasera. il nostro prossimo ospite, onorevole del Popolo delle Libertà, membro della Commissione di Vigilanza RAI. E questa settimana, io ho detto in apertura del programma, si è chiusa posta elettorale anche con questa questione, queste questioni poste da una parte dal centrodestra su Santoro, che è tornato con anno zero, e con le critiche che gli sono state mosse anche per aver realizzato RAI per una notte al di fuori della RAI, e però dall'altra parte le critiche che il centrosinistra fa a Minzolini, a questo punto non tanto per i suoi editoriali quanto per la questione dei conduttori che sono stati sostituiti, e le critiche fatte all'Abusi, che a sua volta aveva criticato il TG1 su Repubblica. Insomma, è un po' complicata da spiegarle, però la sostanza la conoscono tutti. Mazzucca, quello che io volevo capire da lei è anche questo: mi sembra che per il centrodestra diventi difficile prendersela con la faziosità di Santoro, che pure è sotto gli occhi di tutti, difendendo allo stesso tempo Minzolini, cioè diventa un po' debole, no? No, invece io penso che sia il contrario, perché sono due situazioni assolutamente diverse, nel senso che le provocazioni di Santoro arrivano al limite del paradosso. È paradossale che si mette allo stesso piano quello che sta facendo Santoro, prima a Bologna e poi sulle trasmissioni normali, con quei provvedimenti che sono legittimi da parte di Minzolini. Anch'io sono stato direttore di un giornale. Sì, su quello non c'è dubbio, sono d'accordo. Credo, cioè, che ognuno può fare, ogni direttore, certo, abbia diritto a dare una sua linea politica, una sua linea editoriale, prendere delle decisioni e anche criticare i redattori che lo criticano. Mi sembra abbastanza legittimo e giusto. Poi Minzolini può avere altri difetti o altri rivi da fare, però mi sembrano due storie su due piani assolutamente diversi. Quindi mi sembra difficile metterli allo stesso livello. Ma su invece sulla questione di Santoro ci sarà qualche passo formale? Perché pochi giorni fa sembrava che ancora il direttore generale Masi fosse intenzionato ad andare avanti con dei provvedimenti. Cioè, tra l'altro, alla luce anche del risultato elettorale, si sono sprecati numerosi commentatori vicini al centrodestra. Ora io ricordo un editoriale su Panorama di Mulè che diceva grazie Santoro addirittura. A questo punto sembra quasi che no, più Santoro fa rumore, più il centrodestra va avanti. Sì, ma mi sembra che anche martirizzare troppo Santoro poi sia un boomerang. A questo punto, superata la fase elettorale, superato il periodo del blackout sulla par condicio, sarebbe importante che veramente, anche per quanto riguarda la RAI, la televisione, eccetera, ci fosse un momento di tranquillità, di tregua. Abbiamo davanti 3 anni di cose concrete da fare, di riforme importanti. Ecco, sarebbe auspicabile da parte di tutti che si parlasse meno di Santoro e si parlasse più di fatti concreti. Qualche giorno fa, non so se 2 giorni fa, la Padania se ne è uscita con un titolo: conquisteremo Bologna, un titolo un po' minaccioso. In realtà stiamo parlando delle elezioni che ci sono in agenda. Lei, Mazzucca, tra l'altro è candidato, per ora almeno in pectore, insomma, forse per il Popolo della Libertà. Ci spieghi lei per Bologna o per tutto il centrodestra? C'è già un accordo con la Lega per Bologna? Sì, per quanto riguarda il centrodestra c'è un accordo del PDL e della Lega per portarmi candidato come sindaco di Bologna. Ecco, però il problema è capire quando, perché obiettivamente sono il primo a dirlo, se c'è le elezioni si possono fare in autunno con una legge ad hoc, ecco, allora sarà il candidato pronto, più che in pectore, proprio già mandato in pista, insomma, diciamo così, perché io ero candidato come governatore dell'Emilia Romagna. Quando ci furono le dimissioni del Bono, mi chiesero di spostarmi su Bologna, e visto che il problema di Bologna in quel punto era prioritario rispetto al resto, ho scelto di candidarmi sindaco a Bologna, anche perché sembrava che le elezioni a Bologna fossero in contemporanea con le regionali. Poi tutto è slittato, io sono rimasto in pista, c'è già un placete della Lega sul mio nome, ma io credo che per vincere, per cambiare le cose a Bologna non basta soltanto l'appoggio della Lega, ma ci vuole un appoggio ampio di tutto il centrodestra, quindi anche dell'UDC e di tutte le liste cittadine, se ci fossero delle liste cittadine. Quindi ripeto, io sono il candidato se le elezioni si possono fare alla fine del 2010. Se le elezioni, come potrebbe anche essere, si faranno nel 2011, ecco, tutto da rivedere, perché un anno in politica è come 10 anni nella vita normale. È un po' troppo da stare sulla graticola. 20:19 minuti, rientriamo con Giancarlo Mazzucca, dicevamo onorevole del PDL, ma in questo momento ne parliamo anche perché è candidato per il centrodestra per il Comune di Bologna. Qualora si dovesse votare in autunno, Bologna attualmente è commissariata, questo lo sappiamo, il centro-sinistra non lo so se hanno indicato un possibile candidato o ancora è presto, mi pare che c'è ancora un po'. Ancora non hanno indicato nessuno. Ancora nessuno. Si era parlato di Prodi all'inizio, ma Prodi si è tirato indietro. Un'altra domanda che invece le volevo fare riguarda proprio l'Emilia Romagna, che ovviamente conosce bene, tra l'altro come ex direttore anche del Resto del Carlino, è il successo della lista Grillo, che è stato forse a livello regionale il più alto, intorno al 7-8%, sì, raggiunto da Grillo in qualunque altra regione. Come se lo spiega Mazzucca? Beh, come un voto di protesta nei confronti del Partito Democratico. Il Partito Democratico è stato egemone per da 60 anni a questa parte nella regione Emilia Romagna, negli ultimi tempi chiaramente aveva un po' rallentato il ritmo, anche perché ci sono stati alcuni scandali abbastanza importanti, a cominciare dal caso del Bono a Bologna, ma anche alcuni casi della sanità che riguardavano Forlì e Ferrara, e questo ha provocato un po' di malessere da parte delle, soprattutto dei giovani sinistra, che hanno chiaramente indicato un voto di rottura, che è il voto di Grillo. Credo che questo voto dato a Grillo sia un elemento importante di questa situazione in Emilia Romagna, come altrettanto importante è stata la grossa avanzata della Lega, che è arrivata a livello regionale al 13%. A proposito della Lega, lei dice: io vorrei candidarmi col sostegno della Lega, sì, ma anche dell'UDC. È possibile in questa fase, dove sappiamo che l'UDC è un po' non proprio allineata col centrodestra, insomma, cerca di giocare una partita da centrista, arrivare a un accordo del genere a Bologna? Ma io mi auguro di sì, anche perché il fatto di andare isolati a livello regionale non ha pagato per l'UDC. Noi abbiamo indicato varie volte l'UDC di schierarsi con noi, c'era stata invece la volontà di andare per proprio conto, e per questa misurarsi. Volontà non ha pagato l'UDC. Quindi io credo che a livello cittadino ci sia, spero, un cambiamento di programma, anche perché Casini di Bologna, quindi anche Casini ha interesse che Bologna cambia veramente volti pagina. Un'ultima domanda, Mazzucca, è un po' birichina, gliela voglio fare lo stesso, però riguarda, siccome subito dopo le elezioni Berlusconi, a proposito delle candidate in Toscana, Monica Faenzi, e in Emilia proprio, Romagna, Anna Maria Bernini, che però hanno perso le elezioni in maniera abbastanza sonora, lui però ha detto: si sono comportate bene, le voglio promuovere a livello nazionale. Da parte, dal suo punto di vista, insomma, di parlamentare e di membro in qualche modo del partito, anche se cooptato da una carriera di giornalista, queste carriere che qualcuno definisce un po' frettolose all'interno del Popolo delle Libertà, come le giudica? Beh, in questo caso, conoscendo sia la Faenzi che la Bernini, devo dire che sono due ottime politiche, non sono quelle cosiddette politiche che magari vengono pescate l'ultimo per la bella faccia, no? Non solo per no, quello. No, assolutamente, uno è avvocato, l'altro è anche sindaco già di una cittadina della Toscana, quindi sono veramente delle persone dotate che meritano senz'altro rispetto e considerazione. Credo che comunque, al di là delle donne, ci sia necessità anche di ringiovanire un po' i quadri in alcune regioni d'Italia, quindi benvengono sia la Bernini che la Faenzi. Benissimo, grazie allora a Giancarlo Mazzucca, grazie per voi. Essere stato con noi, buona serata. 20:23, andiamo agli ascoltatori. Carlo da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io ho chiamato per, volevo intervenire sulla diatriba Santoro-Minzolini. Però posso fare una piccola codicillo alla telefonata che ho ascoltato mentre entravo in onda, cioè dire, era il discorso del processo di Napoli e la Juventus. Sì, prego. Inviterei gli sportivi italiani, chi si interessa di calcio, di andare a leggere, dico solo questo, la motivazione della sentenza che ha da parte della Corte Federale, che ha mandato in B la Juventus. È veramente una cosa molto molto interessante. Invito chi si interessa di calcio e soprattutto i giornalisti, credo che non tutti l'abbiano letta, di andare a leggere quella motivazione, è molto istruttiva. Io l'ho letta e posso dirle, è molto istruttiva. Ecco, ma ci vuol dire anche perché è istruttiva? È istruttiva perché nella motivazione della sentenza dice che non c'è stato in effetti la prova assoluta che la Juventus aveva commesso degli illeciti, però che siccome c'era, glielo sto dicendo in grandi linee, siccome c'era una una come si dice, la cosa popolare, un sentimento popolare che invitava a questo, che la Juventus risultava che Moggi risultava che imbrogliava, che truccava le partite, allora era quasi un dovere condannarla. Ma a questo si aggiunge anche la motivazione della soluzione del Milan e delle altre squadre. Io, appunto, è piuttosto lunga, bisogna andarla a leggere, è molto istruttiva, e anche chi non vuole rendersi conto di come, di come è stata trattata la Juve in quell'occasione potrebbe fare un pochettino di chiarezza. Secondo lei, lei aveva chiamato per questo, però no, per no, un'altra no, ragione. Io avevo chiamato invece per la diatriba di Santoro, ecco. E Mizzolini, insomma, di quella cosa lì. Però ho sentito, voi mi avete messo in linea in comunicazione nel momento che parlavano due persone di questo. Vabbè, vuol dire anche su Santoro e Mizzolini o no? Certo, io sì. Dico una cosa sola, che la voglio mettere su un altro aspetto. Dico che le trasmissioni di Santoro aizzano un po' gli animi dei cittadini. E in contrapposizione anche le risposte del presidente Berlusconi, i comportamenti, non è che mettano della pace, che buttano acqua sul fuoco, ne certo, mettono non getta, perché poi politicamente Berlusconi sfrutta, certo. Da questo punto di vista fa bene, la cattiva pubblicità che Santoro cerca di buttargli addosso e lui certo. La ributta addosso a Santoro, questo è poi un gioco politico. Ma io dico che Berlusconi, essendo Presidente del Consiglio, dovrebbe misurare i termini, perché dovrebbe cercare di ammorbidire i toni, perché in effetti nell'opinione pubblica si crea questo clima di divisione, un po' di astio da una parte e dall'altra. Io sento tutte le sere la vostra trasmissione e sento tutte le persone di sinistra che telefonano, ma che parlano di Berlusconi con un odio veramente che non ritengo che ci dovrebbe essere in persone. Intanto mi scusi, ma vedo le dirette di Sky TG24 coi rientri a Roma e ci sono delle code, non voglio esagerare a dire drammatiche, ma sì, vedo sì. Chilometri e chilometri. Prima sì. Anch'io, sì. Sì. Vabbè, ma lo vede i nostri politici, io ritengo, io sono un elettore di centrodestra, però non posso non criticare certe situazioni. Io dico che sono lontani un pochettino dalla realtà di quello che oggi hanno bisogno i cittadini e che soffrono anche dal punto di vista che loro si interessano poco di queste cose. Mi sembra che sono lontani da quelli che sono i bisogni quotidiani di noi che lavoriamo, che ci impegniamo. Ad andare avanti nella vita. Io ho 67 anni e le dico che vedo che in questo mondo, nella nostra Italia, c'è gente che gode di benefici e di benefici senza aver fatto niente, senza averli meritati. A vederli lì, conosco io, visto io, perché sono una persona che ha vissuto sempre in un ambiente. Ma di che benefici sta parlando? Scusi, pensioni? Di che benefici sta parlando? Ma tanta gente che hanno dei posti di responsabilità, presidenti, consigli di amministrazione, di queste, di raccomandati, di L'Italia è un po' il paese non dei raccomandati, c'era anche una trasmissione televisiva dei presidenti, no? Ci sono presidenti ovunque, esatto. Cariche, presidenti di condominio, presidenti di tutto, sì. Ma che oltretutto, che oltre a prendere degli stipendi che non discuto, perché magari saranno dettati da capacità, però che agli stipendi vengono anche aggiunti dei benefit, il cinema non lo paga. Vabbè, grazie, 20 e 28, accorciamo la lista, perché sennò poi ci intristiamo troppo. Chi abbiamo? Marco da Trento, prego, buonasera. Buonasera a lei, anch'io volevo intervenire sul signor Santoro, perché praticamente... Si è fatta una buona pubblicità, perché si sente parlare spesso, io ascolto sempre Radio 24 e una sera sì e una anche sì, una volta almeno viene tirato in ballo, e credo che anche lui, insomma, si sia costruito bene come vittima e usi bene la sua trasmissione per dipingere poi le cose come gli piace a lui, perché è un po' esagerato, no? Un po' esagerato, perché adesso io... ho anche simpatia per la destra, perché sinceramente ho simpatia per la destra, quindi sono di parte, però non credo che abbiano fatto poi tutto questo disastro. Qui si parla di dittatura, di gente che ai limiti, all'estremo, per me la vita è duretta, perché anch'io ho famiglia numerosa, 4 figli, e bisogna lavorare, perché è dura, ma è sempre stata dura la vita. Ma lei lo guarda da Santoro? Per un operaio è sempre stata dura la vita, adesso non è che da quando c'è la destra la vita è dura, prima... era più facile. Ma lei le guarda, hanno zero i programmi? Ma io ho guardato qualche episodio, però realmente mi deprime troppo, cioè voglio dire, non ci vedo poi tutta questa realtà in queste cose, perché sono tanti fatti che sono reali, per l'amor di Dio, che si sanno, che si conoscono. Però poi dopo sempre dipingere una persona come la causa di tutti i mali, poi è anche troppo facile, no? 20 e 32, 824, 0024, titoli del TG2. Fiaccolata e concerti ad un anno dal terremoto che ha sconvolto la città. Letta, ritrovare l'unità delle prime ore. Bertolaso, lo sta fatto c'è e ci sarà. Berlusconi ad un anno dal sisma, case costruite in tempi record, da noi piena efficienza, ma c'è chi infanga il lavoro fatto da governo e soccorritori, una realtà incancellabile. Processione sospesa a Sant'Onofrio in Calabria, niente ma fuori al rito, aveva deciso il priore, preso subito di mira dalle cosche, spari contro la sua abitazione. Tradito dagli SMS, il marito della donna svizzera uccisa e trovata nel lago di Como, movente passionale, mi voleva lasciare, nel lago viene ripescato un altro cadavere. Ritorno sui campi da golf di Tiger Woods, travolto a novembre dallo scandalo coniugale, poco fa il primo incontro con la stampa, vincere irrilevante dopo il male fatto ai miei. Benissimo, riprendiamo con i vostri interventi, andiamo a Roma, ci chiama Giovan Battista, buonasera. Sì, buonasera Alessio. Prego. Un sacco di tempo che provavo a prendere questa linea. Sento, ho ascoltato prima il signor Mazzuca. Sì. Il quale diceva che come direttore Menzolini prende la sua linea editoriale. Ho capito, ma deve dire la verità. Non può dire che l'avvocato Mills è stato assolto e non è stato prescritto, non assolto. Sì, è stato e detto in un titolo del telegiornale. Il resto dell'informazione, giusto? E in questo è stato assicurato, è stato pizzicato con un'intercettazione col presidente Berlusconi che lo rassicurava in questo senso. Uno, il signor Mazzuca diceva che il voto di protesta per Grillo è di protesta per il PD, ma non è vero. Perché qui nel Lazio non stanno aspettando altro che Grillo venga a formare il suo partito lì, come si chiama, associazione attraverso internet. Ma quello che a me interessava di più, sa cos'è? Non è Santoro, l'altra trasmissione della Lega lì, il leghista, come si chiama quest'ultimo? Sì, Gianluigi Paragone, sì. Paragone, che il quale non ha le fisiche di roll. Deve dirigere qualcos'altro. Ah, addirittura. Adesso più tardi lo sentiremo, sentiamo cosa. Sì. No, una trasmissione. Quello che mi interessava è che in questa trasmissione, dal politico Mazzuca, non sento parlare della situazione economica che abbiamo. Abbiamo perduto 5 punti di PIL tutto in un colpo. Il debito pubblico è andato al 120%. Vabbè, non erano le domande che gli avevo fatto, però l'avevo chiamato per parlare di altre cose. Sì, ho capito. E non di quello, quindi in via generale questi politici quando intervengono parlano sempre del PD o di quell'altro. Io non voto più, aspetto Grillo, voglio vedere prima il suo programma, perché questi politici hanno assassinato il paese. Va bene, dai. Ora, esempio, chi è che ha assassinato il paese? I politici di destra, di sinistra, i tutti? Politici, ma lei guardi, per esempio, con la situazione drammatica che abbiamo degli operai che non possono comprare il latte dei bambini. Qui a Roma, io vivo qui a Roma, il sindaco di Roma, per la Polvere dice io ci ho messo la faccia, ma gli vorrei dire ci ha messo anche la moglie lì, sta, e prende anche 2.000 euro che porta a casa. Sì, questa è una battuta però, sì. Eh sì, è una battuta per la verità, Politici che hanno il signor Mastella che cambia dalla moglie viene eletta nel PDL, dopo aver fatto cadere un governo che stava facendo bene. Stava recuperando i soldi dell'evasione fiscale e questi fanno una legge per invece favorire quelli che hanno mandato i miliardi all'estero. Va bene, fermiamoci qua. Io la ringrazio, Giovan Battista da Roma, però piano piano col suo intervento stava andando indietro nel tempo. E quindi magari fermiamoci qua, facciamo invece qualche passo in avanti. 20 e 36, da chi andiamo? Pippo da Lucca, buonasera. Pippo, buonasera. Ci sente? Sì, è in diretta, prego. Sì, la sento bene. volevo dire due cose veloci. Allora, la Juve, per vendere ci vuole uno che compra, per cui non capisco perché hanno fatto pagare solo la Juve. Per vendere cosa? Mi scusi, Emilio Fede. Sì, lei è un po' troppo fulmineo. Le corruzioni, no, ma io non voglio neanche la risposta, perché tanto lo so già come va a finire poi. Emilio Fede non si può paragonarlo a Santoro e all'altro là di alle altre trasmissioni, perché questo qui in mezz'ora parlerà di Berlusconi, ma ne parla bene, non parla male di tutta la sinistra, come non fa sceneggiate, teatri, spettacoli, imitatori, cioè non monta uno spettacolo da circo equestre. Contro le trasmissioni sospese, ma non sono mancate a nessuno, solo i giornalisti sono mancati, sì, con le trasmissioni, perché hanno paura di trovarsi domani. Questo l'avevamo detto, mi scusi. E compagnia bella. Mi scusi, voi avete poi, siete dispiaciuti. No, aspetti. Ma il pubblico, aspetti il un attimo, mi sente? Non sono dispiaciuto, Mi sente? A noi. Pronto, Pippo? Sento. Ecco, allora, lei dice che sono mancate solo a noi giornalisti, può darsi, perché sicuramente noi viviamo anche di... Scusi, ma però mi faccia parlare, Pippo da Lucca, amici, Pippo. Tutti quelli che ho contattato. Non mi costringa ad urlare al microfono, perché non ha senso, mi ascolti un attimo. Lei dice che sono mancate solo a noi, però per onore della verità, il ritorno di Santoro ha realizzato uno share, non mi ricordo più, ma non per difendere Santoro, ma per dire la verità, del 20%, credo, non so quanti milioni di persone, quindi non credo siano tutti giornalisti. C'è un certo interesse intorno alle cose che tira fuori Santoro, saranno tutti elettori di sinistra assatanati, però non sono solo giornalisti, così fa discutere, certo, si tirano fuori delle idee e se ne discute, insomma. Io non vedo cosa ci perderemo, cosa ci guadagneremo a perdere, ma non solo Santoro, Paragone, Fede, chi più ne ha più ne metta, insomma. 4 milioni di persone non sono tutti giornalisti, mi creda. Voglio dire una cosa riguardo alle buste paga. Sì. Io ho una canzone di Lucio Battisti di 35 anni fa, sì, che dice: al 21 del mese i soldi erano già finiti. Mio papà ha lavorato 42 anni alla Zia Viscosa era comunista, e mi diceva sempre: vince la Democrazia Cristiana, vince i comunisti, vinceranno i socialisti, vincerà chi vincerà, io sarò sempre un operaio che farà fatica a tirare a fine del mese. E questo quindi mi è stato detto mio papà, che era una persona saggia. C'è una sana diffidenza rispetto a tutta la politica, di destra, di sinistra, insomma. Ma sì, ma perché lei mi può accennare qualcuno che... Io voto la Lega, ma voto la Lega perché è il meno dei mali, non è che per me sarebbe il massimo. È il meno dei mali, io ho scelto il meno dei mali. Vabbè. Ma voglio dire un'altra volta... Quando si parla di democrazia, come si fa a parlare di democrazia quando si permette a uno come Grillo di parlare e dire quelle cose che dice? Perché, scusi, ma non è proprio questa, mi scusi Pippo, non è proprio questa la democrazia. Persone, no, basta, Pippo non ci ascolta, buttiamo giù la telefonata, perché... Pippo, mi sente? Sì, la sento. Ecco. Con le minacce lei si è zittito un attimo. Scusi, cosa c'entra la democrazia con... anzi, è proprio questo. Cioè, la democrazia consiste proprio nel fatto... Mi faccia parlare. Non si può permettere una dittatura di quel genere lì. Ma però lei non ascolta. Lei è poco democratico in questo. No, infatti non voto Democrazia Cristiana, mai. Mi scusi, ma è Grillo farlo parlare? È proprio il fatto che siamo in una democrazia. Parla Grillo, si è candidato con lui il Movimento 5 Stelle, ha preso dei voti. Proloqua, non parla. Lui dice delle parolacce in continuazione, tira fuori delle cose senza prove. Lui ci dovrebbe portare... Quando dice quello là ha rubato, quello là qui... Ma è possibile non parla mai che Santoro prende quasi 900.000 euro all'anno di stipendio e non si può licenziarlo? Ma dove? Questa è democrazia. Quello comanda in casa degli altri. Io posso capire un impiegato, un cameraman che prende 2.000-3.000 euro al mese, adesso non so quanto prende. Ma un cameraman 2.000-3.000 euro al mese, beato lui. Che prende quasi un milione all'anno di stipendio, e noi siamo obbligati a tenercelo anche se non ci piace. Che poi, visto che almeno lasciate la possibilità alla maggioranza di governo di decidere chi è che deve andare in televisione a fare sproloqui, perché deve vincere sempre la sinistra anche quando... Non ho capito quest'ultimo concetto. La maggioranza di governo deve decidere? La maggioranza di governo deve almeno la possibilità di mettere in televisione chi vuole, che non sia di parte sfacciata come Santoro, ma di poter cambiare i professi. Io parlo di professionisti, non parlo di... Beh, questo non è propriamente, come dire... troppo democratico, insomma. Cioè, è ovvio che i telegiornali sono guidati da direttori che sono espressione politica. Però mia figlia è un ingegnere. Sì, ma lei però non ascolta, Pippo. Quando scade il contratto la mandano via. Deve trovarsi prima che scade il contratto un'altra azienda che gliene fa un altro. Però mi scusi, una certa cifra. Ma lei si rende conto, Pippo? Basta, allora è giusto che non si può licenziare. Lei fa tanti discorsi sulla democrazia e su quello che dovrebbero fare gli altri, però lei è il primo che viene, interviene, parla e non ascolta le domande. Ma lei fa così anche nella vita normale, quando le fanno delle domande, parla sopra o ascolta? Io esprimo la mia opinione, naturalmente siamo accorti. Sono un po' invadente, poi alla radio sono un po' più invadente perché che tra poco mi toglie la linea. Ok, cerco è l'effetto radio. E questo è un punto a suo favore, però ecco, cerchiamo anche di non dare la sensazione di parlare ognuno per conto suo, perché sennò poi ci sarà un ascoltatore da qualche parte che dirà: vedi Italia come va, c'è gente che parla per conto suo senza ascoltare, tipo lei. Tanto lo dicono lo stesso, uno che parla poco, uno che parla tanto è sempre uno che viene considerato così, non è che anzi, uno che parla meno è considerato più pirra di uno che parla tanto, vedi Grillo, Santoro, Bolis, come si chiama quello lì di ma lei scusi adotta il metodo Grillo proprio mentre mi critica Grillo, cioè va avanti. Metodo Grillo, io guardi, ho degli amici all'estero che gli ho fatto sentire, cioè lei fa come lui, fa come Grillo, parla e non ascolta. Lei fa come Grillo, parla e non ascolta. Mi dica. No, niente, io prima le ho fatto un paio di domande, ma insomma, se vuole le rispondo, me ne faccia una sola. No, a questo punto non rovesciamo la l'ottica della trasmissione, per cui io faccio le domande a lei. No, io non voglio condizionare la trasmissione, ma la mancanza di Santoro e compagnia bella proprio non è mancata, l'avete sentita solo i giornalisti. Ecco, è questo il punto su cui io... Avete paura di trovarvi nella stessa condizione. Ma non è vero, non è vero niente, guardi, io non ho alcuna paura. Ci risiamo, Pippo, ma lei però mi ha appena detto di farle la domanda, io la domanda gliel'ho già fatta, allora gliela rifaccio. 4 milioni di persone che ascoltano Santoro non sono tutti giornalisti, non dica così che è una questione riguarda nessuno. Chi erano quelli là che ascoltavano? Sarà stato qualcuno che era interessato. Certo che ci sono 4 milioni di persone che condividono. 2 ma non lo so se condividono, non lo so, magari non condividono. Curiosi. Esatto, e questo non è un fatto positivo. 2 milioni sono curiosi, vogliono parlare con l'amico dell'ufficio domani mattina in ufficio. Per l'amor del cielo, anche questo fa parte. La trasmissione può dire anche lui la sua parola. Se non l'ha vista non può parlare, insomma, non può criticarla. E su questo mi pare che non ci sia nulla di male, no? Pronto? No, mi dica, cosa? Non c'è niente di male? Mi pare che non ci sia niente di male. Il fatto che Santoro sia tornato in onda, lei ha detto non ne abbiamo sentito la mancanza. Questo può anche darsi che ogni tanto un po' di astensione dai chiacchiericci anche politici. Anche quelli del centro-sinistra non ne ha sentito la mancanza. I miei amici tutti. Tanto quello lì, se non c'è, noi se c'è lo vediamo, se non c'è ne vedremo un altro. Sì. Non è che ma lei, scusi, Pippo, lì, le faccio la televisione chiudere i battenti. Quanto ha preso la Lega? Pippo, quanto ha preso la Lega a Lucca? In che percentuale è stata votata? La Lega Lucca mi pare ha preso pochissimo, il 2-3%. Poi io voto in Brianza, per cui sono qui nella casa di mia figlia. Ah, ecco, quindi lei ha votato a nord, insomma. Sì, io ho votato a nord, però qui mi pare che ha preso il 3%. Ma poi qui non ne parla nessuno. No, mi interessava l'idea di un lucchese leghista, però non è questo il caso. Grazie. Non si sente a parlare che non sono lucchese. In effetti sì. Buonasera anche a Gianluigi Paragone. Buonasera. Vice direttore di Rai 1, conduttore. Rai 2, scusa. Vice, sì, certamente. Conduttore di L'ultima parola. Tra l'altro, abbiamo fatto sentire in apertura del programma un tuo momento così di contrasto con gli ospiti a Termini Imerese. Credo che fossero operai, lavoratori lì davanti alla fabbrica. C'era un collegamento. Io non l'ho visto il programma, ma insomma, c'è stato un momento di incomprensione. Ma su questo torniamo tra un attimo. Prima, però, Paragone, io volevo chiederti questo: è un po' complicata questa questione delle le intercettazioni su Calciopoli che Moggi vuol portare al processo e che dimostrerebbero invece che Moratti parlava con i designatori arbitrali e che quindi non era così puro e verginello. Ripeto, è un po' tecnica, non mi vorrei addentrare troppo, però insomma tu sei un tifoso della Juventus, tra l'altro molti sono saltati su a dire adesso quantomeno questi scudetti azzeriamoli, non assegniamoli proprio, no? Facciamo tabula rasa, è così? È sempre stata la mia posizione all'inizio, io ho pensato che quello di Calciopoli potesse essere un sistema assolutamente allargato, non volevo giustificarlo, però non volevo neanche che uscisse soltanto la Juve, la più penalizzata, la Juve, poi la Fiorentina, in parte il Milan, e sembrava che l'unica squadra immacolata fosse l'Inter. A questo poi si aggiunse la presenza di Guido Rossi come commissario, e Guido Rossi era comunque nel board nerazzurro, era stato nel board nerazzurro, sui legami con Trocchetti Provera. Quindi a me sembrava un po' troppo tutto, non voglio dire macchinoso, però io sempre da sportivo, per l'amor del cielo, non parlo insomma, da quasi un complotto alla luce del sole in qualche modo, no? Ma a me sembrava un sistema che, per quanto marcio o non perfetto secondo i punti di vista, comunque fosse un sistema a maglie larghissime. Si volevano eliminare torti arbitrali, beh, bastava mettere la Moviola in campo. Dopo abbiamo visto che invece abbiamo un problema di classe arbitrale e lo stiamo vedendo ancora oggi, quindi la sudditanza psicologica verso la Juve allora c'era, così come oggi c'è nei confronti dell'Inter. Sì, questo riguarda un po' le squadre però, di più blasonate, di maggior successo. Da qui a dire che l'unico demiurgo di questa, però, di questa Calciopoli fosse Moggi, ce ne passava. Però ecco, c'è un aspetto che a me, non dal punto di vista sportivo, ma insomma proprio dal punto di vista anche processuale, non mi convince, ripeto, non entrando nei tecnicismi però, ed è questo, cioè si dice, anche Battista sul Corriere dice, incomprensibilmente queste intercettazioni che tira fuori adesso Moggi non sono state messe a verbale, non sono state considerate, e si dà quasi per scontato che i giudici, anche loro, facciano parte un po' di un complotto, cioè i giudici interisti, dopo i giudici comunisti adesso abbiamo i giudici interisti, a me non mi quadra, cioè voglio dire, è possibile che tutta sta roba sia stata montata su, adesso salta fuori un'intercettazione nuova e che i giudici l'hanno pur valutato, che però non hanno considerato, basta questo per sconvolgere tutto. Ma questo fa un po' parte a volte del fanatismo anche investigativo, ma questo ha riguardato Calciopoli, così come riguarda anche parecchie inchieste. Ci sono dei momenti in cui gli inquirenti vanno avanti per la loro strada e non tengono mai in considerazione una variabile diversa. Abbiamo visto con Stasi che cosa accadde, abbiamo visto, mi viene in mente Gravina di Puglia che cosa accade, ma tanti altri clamorosi casi in cui il pubblico, cioè, tu dici una sorta di apnea, si tira dritto per quella strada lì, che è l'unica che loro vedono, non si tenta neanche di ipotizzare uno scenario diverso, eppure a volte magari l'indizio ce l'hanno lì, ce l'hanno accanto, ce l'hanno nel cassetto, per citare la detta. Però anche la giustizia sportiva, perché insomma oggi non so, è stato condannato, non ricordo male, ma sì, ma è proprio questo fanatismo inquirente che è un peccato originale a volte della giustizia italiana, giustizia sportiva, giustizia ordinaria, e a volte anche la giustizia dei provvedimenti amministrativi dell'ordine dei giornalisti, per esempio. Quando si pensa che ci sia soltanto una ed una sola strada, si va dritti a seguire solo però quella, da sportivo, non si tiene in considerazione il resto. Da sportivo, paragone, ti chiedo, anche da juventino, ma insomma da sportivo, adesso queste intercettazioni noi abbiamo anche fatte sentire prima, insomma, dice, vi ho mandato Gabriele, dice Bergamo parlando con Moratti, Gabriele ovviamente è l'arbitro, come dire, secondo il tuo punto di vista dimostrano in qualche modo che Moggi non faceva niente di più di quello che facevano anche gli altri, quindi come la sua teorema, tutti colpevoli, nessun colpevole, oppure invece che anche l'Inter deve rientrare in questo processo e subire a sua volta delle penalizzazioni, perché comunque in qualche modo Moratti sembra, da queste intercettazioni, che fosse anche lui a fare delle pressioni in qualche modo sugli arbitri. Allora, se tutto va visto alla luce processuale, anche l'Inter deve entrare nel processo. Se invece viene visto come una bruttissima prassi delle squadre più forti, in cui i dirigenti parlavano tutti con il designatore arbitrale e spesso anche con gli arbitri, allora va rivista tutta l'impalcatura di Calciopoli. Io credo che fosse prassi assoluta ieri, mi verrebbe da dire forse anche oggi, ma lo dico soltanto da tifoso, che fosse prassi, sia ancora oggi prassi, quella di parlare con i designatori arbitrali. Ieri forse più di oggi. Comunque, se ieri c'era un difetto, riguardava tutti. Riguardava Moggi, riguardava la Juve, riguardava l'Inter, riguardava tutti quanti. Per me poi viene un po' da dire che tutto, non lo vedevo così demoniaco il fatto di parlare con... Quindi sei più per tutti colpevoli, tra virgolette, però in realtà nessun colpevole, insomma, mi sembra di capire. Sì, oppure qualcuno avrà esagerato, no, però no. Quella era la prassi delle grandi. Se si voleva pulire un po' il mondo del calcio e correggere queste cose, queste sviste arbitrali, questi favoritismi arbitrali, bastava poco, perché bastava mettere la moviola in campo e la facevamo finita con la palla varcato la linea, gli è stato dato il rigore, perché poi parliamo di queste cose, perché stiamo parlando, certo. Il gol non assegnato, il fuorigioco non assegnato, il rigore non assegnato, e questo fischiato la Juve piuttosto che no, cioè stiamo parlando di queste robe qua. Senti Gianluigi, una cosa te la voglio chiedere, siamo quasi in chiusura, sul programma L'Altra Sera invece, perché devo dire che lo spunto me l'ha dato Grasso, che ti ha un po' criticato sul Corriere, perché insomma dice che il tuo programma volevi addirittura imbonirti Termini Imerese, ma non sei riuscito, poi te la sei presa. Che è successo? Perché insomma... No, io non volevo imbonirmi nessuno, no? Sono partito con una raffigurazione di un'Italia spaccata in tre e ho dato tre colori: il nord, che è colore verde padano, il rosso del centro, che è un rosso che lega il sistema delle cooperative con quel partito che ieri era comunista e oggi è il Partito Democratico, e sud bianco assistenzialista, voi di destra e di sinistra. Questa era la raffigurazione. Però è stata un po' forte quella cosa. Forte però, se non vogliamo vedere. No, sull'assistenzialismo no, io non dicevo questo, è un po' forte, mi riferivo al frammento che noi abbiamo sentito, io però ripeto, non ho visto la puntata. Quello è il frammento sulla questione della mafia. Della parte più alta della trasmissione, dove noi abbiamo fatto vedere, per esempio, tra le altre cose, un autista dipendente, neanche comunale, una delle tante agenzie, authority che ci sono c'erano in Campania, e dicevamo, e prendeva 4.000 euro al mese, diciamo, e io ho chiesto ai ragazzi di Termini, ma non vi dà fastidio questa busta paga? E la risposta è stata, beh no, ma anche lui deve mangiare e tiene famiglia, e quindi è stato un po' il primo momento difficile, dopodiché questi continuavano, non mi piace, è indecente il modo in cui la trasmissione raffigura il sud, da lì siamo un po' tutti partiti, io per primo ho detto non credo che sia più indecente della mafia. Quello è stato buono, perché sembrava quasi che tu stessi dicendo a quelle persone lì che in qualche modo erano contigue, questo forse non ha funzionato in quel momento. No, io non ho detto che fossero contigue, io ho detto se diciamo la parola indecente o indegno, ma più indecente, usiamola pure per altre cose. Sì. Quale altre parole ci restano per commentare una situazione che è ben più grave? E da qui io ho detto, cos'è indegna? La mia trasmissione o è indegna la mafia? Cioè, perché altrimenti la parola indegna, che è una delle parole tra le più esasperanti, è già uno dei picchi più alti. Se nella scala cromatica lessicale, oltre l'indegno, ci sono ben poche parole. Sì, è chiaro, è chiaro. E allora, se indegna una trasmissione che mette a nudo, tanto che dopo l'ho detto, allora la verità è che voi non volete sentir dire che nel sud c'è questo parassitismo e c'è questo assistenzialismo. Aspettiamo la prossima puntata, Gianluigi, grazie. La prossima puntata che sarà ancora sul divario nord-sud. Benissimo, 20:57, buona serata a tutti, grazie a Gianluigi Paragone, un ringraziamento in regia anche a Valeria Bernardi, in redazione a Laura Marchesi, Riccardo Poli, buona serata ad Alessio Maurizi, domani torna naturalmente Giuseppe Cruciani, buona serata. La Zanzara.